Buonasera a tutti, benvenuti, grazie. Questa è la conferenza conclusiva di più di un anno di lavoro che è stato svolto in attuazione di un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Fundamental Rights and Citizenship e coordinato dal Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Diritto Europeo dell'Università di Bologna, diretto dalla professoressa Rossi, con la partecipazione del King's College, e qui presente il professor Biondi, e della Fondazione Basso, in particolare dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa della Fondazione Basso. Il progetto aveva lo scopo, e spero che abbia anche avuto l'effetto, di diffondere la conoscenza del sistema di tutela dei diritti fondamentali in Europa, quali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, come sapete diventata vincolante con il Trattato di Lisbona, e che costituisce una caratteristica ormai della cittadinanza europea. Il CIRD di Bologna ha a questo scopo organizzato una molteplicità di iniziative, oltre alla conferenza congiunta iniziale sul ruolo dei giudici nella protezione dei diritti fondamentali. Ha organizzato singole lezioni sulla cittadinanza, la Carta dei diritti, il ruolo dei diritti fondamentali nella lotta al terrorismo, nella protezione consolare e diplomatica. Ha organizzato incontri pubblici sul diritto europeo in materia di famiglia, immigrazione e protezione dei dati personali e 3 convegni sul diritto all'equo processo, sulla Carta dei diritti, messa a confronto con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani e il confronto fra sistemi in questa tutela multilivello che ormai è una caratteristica del nostro continente. Il King's College a sua volta ha organizzato dei seminari sui rapporti fra la Carta dei diritti e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e su casi giurisprudenziali. La Fondazione Basso a sua volta ha organizzato 8 seminari sui diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona, sulla giurisprudenza multilivello, sulla progressiva affermazione della Carta dei diritti, sul principio di uguaglianza, sulla cittadinanza sociale europea, sull'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali e sull'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei diritti umani. Le lezioni introduttive degli 8 seminari sono ora pubblicate in questo volume che avete trovato qui nell'atrio e che è a vostra disposizione perché lo scopo di questa pubblicazione, le lezioni degli 8 seminari sono tradotte in 3 lingue e lo scopo di questa pubblicazione è appunto quello di diffondere la conoscenza della Carta dei diritti e di questo sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali in Europa. Ora, questa conferenza conclusiva tratterà dei 4 temi cruciali che sono indicati nel programma e che riguardano il ruolo della Corte di Giustizia dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le conseguenze dell'opting out del Regno Unito riguardo alla Carta dei diritti fondamentali, l'efficacia della Carta vista nella giurisprudenza nazionale e il negoziato in corso sulla prevista adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei diritti umani. Mi pare dunque un pomeriggio particolarmente impegnativo e credo molto interessante. La prima relazione è affidata alla professoressa Lucia Serena Rossi dell'Università di Bologna, che era stata la coordinatrice di questo progetto e che tratterà del ruolo della Corte di Giustizia nella protezione dei diritti dopo Lisbona. Prego. Grazie, io prima di cominciare volevo ringraziare una persona che è Valentina Bazzocchi perché in questo ruolo di coordinatrice mi ha aiutato moltissimo e ha tenuto un po' anche le fila tra tutte le varie unità della ricerca, quindi sicuramente da sola non sarei riuscita a fare questo lavoro di coordinamento. Io cercherò di non invadere non solo le relazioni annunciate da Papi e da Valentina, ma anche quelle che so che Papi avrebbe voluto fare, così gli lascio un po' di spazio poi per espandersi su questo tema. A volte non è facile così coordinarsi anche per interposta persona, però penso che ci siano talmente tante cose da dire, tutto sommato abbiamo anche poco tempo, quindi sicuramente ti lascerò tanti spazi da coprire. È noto che con il Trattato di Lisbona la Corte di Giustizia estende in via generale i suoi poteri, chiamiamoli così, la sua competenza, innanzitutto razione materie, perché si estende a tutto lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in maniera più incisiva rispetto a quanto fosse precedentemente. Si estende anche a taluni ambiti, seppure molto limitati, della politica estera e sicurezza comune, in particolare in caso di sanzioni individuali. Inoltre, quello che cambia, che avrebbe dovuto cambiare, che è cambiato, ma vedremo molto poco, e questo è anche un problema quando si parla di diritti fondamentali, è la possibilità di adire alla Corte di Giustizia per annullare atti dell'Unione. La legittimazione attiva degli individui è stata ampliata, in quanto non è più necessario dimostrare di essere non solo direttamente ma anche individualmente riguardati dall'atto di cui si chiede l'annullamento, ma solamente con riferimento a taluni atti, cioè a quelli che non richiedono misure di esecuzione né da parte dell'Unione né da parte degli Stati membri, dunque sono sostanzialmente pochi e sono anche così chiaramente configurabili in una precisa tipologia di atti che sono, potremmo dire, tra virgolette, atti amministrativi più che atti legislativi, proprio perché il Trattato dice che devono essere atti senza valore legislativo. Quindi questo è in generale una premessa sul ruolo della Corte. E, per quello che riguarda i diritti fondamentali, però, come tutti sappiamo, il vero problema non è tanto e solo quello di quanti poteri guadagna la Corte di Giustizia, quanto piuttosto di quello che potrà essere il coordinamento fra la Corte di Giustizia e, in caso di adesione, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E quando parliamo di coordinamento tra le due corti, intendiamo poi sostanzialmente anche un coordinamento tra le due fonti, e cioè tra, da un lato, la Convenzione Europea e dall'altro il sistema dell'Unione, che è il sistema trattato più carta più diritto derivato. E quindi abbiamo un coordinamento di tipo sostanziale sul diritto e un coordinamento di tipo istituzionale fra le corti. Parto dal secondo problema, cioè il coordinamento istituzionale, e qui penso che anche Valentina Bazzocchi dirà qualcosa, quindi lancio solamente qualche prima considerazione. Questo è il vero punto ed è anche la spada di Damocle che pende sull'adesione alla CEDU da parte dell'Unione Europea. Questo non possiamo nascondercelo, abbiamo una folta serie di pareri, di cui anche uno recente relativo alla Corte sul brevetto, in cui la Corte di Giustizia ha sempre, non sempre, per esempio nello spazio economico europeo alla fine si è trovato il modo, ma molto spesso ha deciso che non si poteva condividere un potere di interpretare il trattato dell'Unione con altre corti, e che trattati che prevedevano competenze in teoria parallele di diverse corti in realtà avrebbero inciso in maniera inaccettabile sulla competenza Corte Giustizia stessa. Ora, il parere della Corte di Giustizia e, diciamo così, questa giurisprudenza pregressa è particolarmente importante perché è già stato ventilata, e più che ventilata, forse minacciata, l'ipotesi che uno Stato membro, si sa già che lo farà la Spagna, ma se non lo facesse la Spagna sarebbe qualcun altro, chiederà alla Corte di pronunciarsi, di dare un parere preventivo sul futuro trattato di adesione. Sappiamo tutti che è già successo in passato che proprio sull'adesione alla CEDU la Corte di Giustizia avesse detto di no. Abbiamo delle posizioni ufficiali della Corte che si trovano sul sito della Corte stessa, dichiarazioni congiunte del Presidente Scuris e del Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo inoltre anche un recente comunicato di pochi giorni fa che è apparso sul sito, in cui si sottolinea in quest'ultimo il cosiddetto principio di sussidiarietà. Ritroviamo questo principio di sussidiarietà così tipico dell'Unione Europea, affermato anche nei rapporti futuri tra la Corte di Strasburgo e la Corte di Lussemburgo. Quindi questo principio di sussidiarietà viene invocato con forza dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo E si fa capire che questo, il rispetto di questo principio è una condizione necessaria perché sia soddisfatto quello che prescrive il protocollo numero 8 al Trattato di Lisbona. Il protocollo numero 8, noi sappiamo, il Trattato di Lisbona prescrive l'adesione alla CEDU, ma il protocollo numero 8 dice appunto che non si devono invadere le competenze dell'Unione, bisogna preservare l'autonomia, le competenze della Corte di Giustizia, e bisogna preservare l'autonomia, il carattere autonomo dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Quindi la Corte di Giustizia ha già in questa comunicazione di fatto interpretato il protocollo. L'ha interpretato in maniera così un po' atipica, perché si tratta di una comunicazione, non si tratta di una sentenza, ma diciamo che è un'interpretazione che pesa, perché è un assaggio di quell'altro parere che invece sarà chiamata poi a dare quando ci sarà un trattato, un testo di un trattato. Dal lato negoziale si va avanti molto veloce, ma bisognerà poi appunto vedere che cosa succede, perché c'è da un lato questa spada di Damocle e dall'altro c'è anche il fatto che, poiché questo accordo sarà un accordo misto, sarà necessaria la ratifica da parte di tutti i parlamenti nazionali. Andrea Biondi poi ci dirà che cosa sta succedendo in Inghilterra. In questo momento il clima nei confronti non solo dell'Unione Europea, ma addirittura anche della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non è dei migliori. Quindi, attenzione, gli ostacoli sono più di uno, cioè non c'è solo la Corte di Giustizia, c'è anche poi la ratifica di tutti i 27 parlamenti nazionali. Il problema del ruolo della Corte dopo l'adesione è chiaramente appunto un problema di coordinamento con l'altra Corte. Dirò poi qualcosa anche sul coordinamento tra le fonti che la Corte sarà chiamata a fare, ma oggi, così attualmente, per quello che abbiamo visto che trapela del negoziato, per i testi che più o meno ufficiosamente così circolano, si intravede un meccanismo che da un lato preveda la possibilità, rafforzi la possibilità della Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, e dall'altro un altro meccanismo per cui ci sia un rinvio pregiudiziale, laddove non sono funzionati i rinvii pregiudiziali dai giudici interni, un rinvio pregiudiziale da Strasburgo a Lussemburgo. Tutte le volte in cui si è in gioco la validità, diciamo la idoneità o la inidoneità di una norma dell'Unione Europea a soddisfare quanto prescrive la CEDU. Quindi non possiamo nemmeno chiamarla validità, perché in realtà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non può dare giudizi né di annullamento né di validità di una norma dell'Unione, può dare un giudizio, chiamiamolo così, di compatibilità con la CEDU. E quindi vediamo brevemente quali possono essere questi due meccanismi. Non mi voglio soffermare. Come? Invadi il campo di validità. No, allora vado oltre, te ne parli già tu. Va bene, parli già tu dei due meccanismi? Va bene, allora lasciamo questo, scopriremo l'assassino alla fine chi è l'assassino scopriremo alla fine. Quindi è sempre il maggiordomo, quindi. Allora, quindi non mi soffermo su questo tipo di problemi, visto che effettivamente non è facile coordinarsi, e passo allora all'altro ruolo, che è quello legato proprio alla giurisprudenza, cioè al ruolo che la Corte Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrà avrà per la protezione dei diritti fondamentali. Ha già dopo Lisbona, e avrà maggiormente, o vedremo diversamente, con l'adesione alla Convenzione Europea. Allora, abbiamo già detto che i poteri della Corte si sono allargati, questo lo vediamo subito perché abbiamo molte più cause nei temi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e abbiamo anche diverse, molte cause post-CADI, per intenderci, cioè terrorismo, quindi sanzioni individuali in ambito PESC. Quindi già abbiamo quantitativamente un dato, una prova che si è allargato il campo di applicazione della giurisdizione della Corte. La Corte naturalmente in questo momento sta fronteggiando una scommessa, e cioè quella di dimostrare che lei è la Corte Costituzionale dell'Unione Europea. Ecco, grazie. L'avevo scritto anch'io, eh? È da molto tempo. E comunque in questo modo, mi ricordo, l'avevo scritto sui quaderni costituzionali, Cesare, perché la Corte prima, fino a un certo momento, aveva un ruolo di giudice amministrativo, cioè faceva un bilanciamento fra i diritti individuali e l'interesse generale dell'Unione, facendo sempre, quasi sempre, anche se non formalmente, magari prevalere l'interesse dell'Unione, quindi con una compressione a mo' di giudice amministrativo dell'interesse del singolo rispetto all'interesse generale. Poi c'è stata un'evoluzione, questa evoluzione è un'evoluzione che ha risentito anche della semplice adozione a Nizza, proclamazione a Nizza della Carta, perché già dall'epoca della proclamazione a Nizza cominciamo ad avere le prime sentenze molto evolutive. Io parlo di Chen, di Carpenter, non so, delle solite Omega e Schmidt-Berger, ma molte sentenze anche molto audaci, anche sorprendentemente audaci, tipo la sentenza Carpenter, in cui la Corte di Giustizia si inventò il campo di applicazione. Si trattava di un cittadino inglese che era in Inghilterra, lavorava in Inghilterra, ogni tanto andava in Lussemburgo. La Corte ritenne questo collegamento così sporadico sufficiente per dire che si trattava di circolazione di servizi, e quindi di fare un giudizio sulla protezione dei diritti fondamentali della moglie filippina di questo signore che era stata espulsa. E questa è una delle sentenze più eclatanti, proprio perché il campo di applicazione in questa sentenza è stato allargato in maniera anche, direi, decisamente artificiosa. E contrariamente a quanto aveva fatto prima in altre sentenze, tipo la Groga, in cui invece avrebbe potuto e dovuto dire che c'era un campo di applicazione, ma in quelle sentenze precedenti la Corte aveva invece detto che non c'era campo di applicazione, quindi non poteva decidere della violazione dei diritti. Allora, già a partire dalla proclamazione a Nizza, la Corte sta cercando di accreditarsi sotto questo profilo come giudice costituzionale, e questo le serve sotto due profili. Da un lato le serve per fronteggiare le critiche, diciamo così, anche i pericoli delle corti costituzionali nazionali, le quali, ricordiamoci, si sono pur sempre conservate i controlimiti e quindi potrebbero, in ipotesi, anche se non l'hanno mai fatto, decidere che una certa norma di diritto dell'Unione Europea non può trovare applicazione in uno dei loro ordinamenti, perché viola appunto uno dei principi fondamentali di questi ordinamenti. E dall'altro canto c'è il rapporto con la Corte di Strasburgo, e proprio in vista dell'adesione la Corte di Lussemburgo deve dimostrare che lei è garantista dei diritti, e che forse sotto sotto in cuor suo vorrebbe anche dire: non c'è nessun bisogno che aderiamo alla Convenzione Europea. E quindi questo spiega come sempre più spesso si parli di diritti fondamentali. D'altra parte, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta stessa acquista un valore giuridico pari a quello del Trattato, e quindi entra ufficialmente a pieno titolo anche nella giurisprudenza della Corte. Se però adesso analizziamo la giurisprudenza, diciamo, dell'ultimo anno, anno e mezzo, insomma, o da quando Lisbona è entrato in vigore, per essere precisi, se noi analizziamo questa giurisprudenza sui diritti fondamentali e vediamo, possiamo cercare di capire come si usa la Carta, come si usa la CEDU. E allora, abbiamo, ricordiamoci che in fondo l'integrazione le menzioni della Carta sono moltissime. Le menzioni della CEDU ce ne sono e sono a volte utilizzate per giustificare un trattamento, uno standard alto di protezione. A volte sono invece, per esempio caso Ruiz Zambrano, utilizzate per giustificare uno standard più basso, per cui si dice: ma in fondo alla CEDU va bene così, alla Corte di Strasburgo va bene così, quindi va bene anche a noi. Quindi. E poi ci sono invece dei casi, come il recentissimo ma già famosissimo caso Ruiz Zambrano è la sentenza invece in cui non c'è nessun riferimento. Quella in Peius, per esempio, potrebbe essere la McBee, quella dell'adozione, quella è un riferimento in Peius. Invece nella Zambrano non c'è riferimento né alla Carta né alla CEDU, ma solo al Trattato, e questo potrebbe stupire, però è così. E poi ci sono sentenze in cui la Corte di Giustizia adotta degli approcci che sono decisamente contraddittori, e qui dopo vengo a Eldrid, soprattutto sotto il profilo del campo di applicazione dei diritti della sua giurisdizione. In un'ottica di adesione, quindi ammesso, anche se forse non al 100% concesso, si aderisca alla CEDU, qualcosa dovrebbe cambiare, perché per esempio nei rapporti tra che la Corte avrà da un lato con la Carta e dall'altro con la CEDU, la Carta ha valore primario perché ha lo stesso valore del trattato, la CEDU invece no. La CEDU è un accordo misto ai sensi del diritto dell'Unione Europea, quindi non ha un valore primario, ha il valore pari a quello, intendiamoci, di un regolamento. Un po' più alto in realtà se guardiamo la gerarchia, perché un regolamento potrebbe essere annullato per, quindi, però è comunque non è una fonte, è una fonte che gerarchicamente sarebbe inferiore alla CEDU. Il fatto che abbia un valore inferiore ai trattati significa, a mio avviso, poi magari sbaglierò, che la Corte di Giustizia potrebbe applicare dei suoi controlimiti. Parallelamente a quello che fanno le corti costituzionali, cioè così come le corti costituzionali dicono noi riconosciamo il primato dell'Unione Europea, ma anche della CEDU, ma sicuramente questo non può violare dei nostri principi fondamentali, così parallelamente anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea potrebbe dire noi riconosciamo il valore della CEDU, ma ci sono dei principi scritti nel trattato fondamentali che sono anche superiori alla CEDU. E quindi questo sarebbe già un'occasione di scontro potenziale con Strasburgo, così come peraltro sarebbe uno scontro potenziale in ipotesi simili fra le corti costituzionali e la Corte di Strasburgo. C'è anche qualche problema in questo coordinamento, in questo uso che la Corte può fare della CEDU o invece e piuttosto della Carta. Finora la Corte non fa una distinzione, Carta e CEDU, solo Carta, solo CEDU, è tutto al suo buon cuore in un certo senso, perché la CEDU è una fonte esterna, è vero che è richiamata dal trattato, è vero che è richiamata dalla Carta, però appunto la Corte potrebbe richiamare la CEDU solo attraverso la Carta, solo attraverso il trattato. A volte invece richiama proprio la giurisprudenza di Strasburgo, quindi finora è tutto molto fazzo, è tutto molto così vago e sfumato. Con l'adesione si passerà da quello, da un accordo, così, da una gentleman agreement ad una session agreement, cioè a un vero accordo internazionale, vero e proprio. E quindi ci sarà da coordinarsi non solo, come poi dirà Valentina, a livello di meccanismi istituzionali, ma anche bisognerà poi capire qual è il coordinamento sostanziale gerarchico, se esiste, tra queste fonti. E allora, i problemi quali sono? Primo, innanzitutto è vero, la Corte di Giustizia finora sta, per così dire, cercando di sorpassare a sinistra la Corte di Strasburgo, cioè di essere ancora più garantista, però non è detto che la faccia sempre, perché può essere che poi nel bilanciamento del trattato qualcosa cambia, quindi si arrivi a effettivamente interpretazioni difformi tra quello che è del diritto previsto dalla CEDU riferito agli atti comunitari. Ci sono comunque dei problemi. Per esempio, parlerà Andrea Biondi dell'opting out del Regno Unito e della Polonia sulla Carta. Vedremo se e in che misura un opting out, vero o no. Vero o no? Però in ogni caso la Polonia no, vediamo, non lo sappiamo. Guarda che loro sono dei copioni, se uscite voi escono anche loro, si è visto col protocollo. Allora, al momento questo opting out, ammesso che sia qualunque cosa se sia, è riferito alla Carta sia, alla CEDU no. Quindi in questo senso la CEDU potrebbe arrivare laddove non arriva la Carta e quindi la Corte di Strasburgo potrebbe forse in un certo senso arrivare anche laddove non arriva la Corte di Lussemburgo. Poi abbiamo un altro problema relativo alla Carta e non relativo alla CEDU, che è l'autolimitazione che la Carta stessa fa, perché la Carta stessa contiene un sacco di autolimitazioni, rispetto delle norme dell'Unione Europea, per esempio le risorse minime per la migrazione intracomunitaria sono fissate da una semplice direttiva, eppure la carta, nonostante il suo valore sopraordinato e quasi costituzionale, fa salve queste limitazioni. Il rispetto delle norme nazionali, quanti diritti della carta sono in realtà demandati all'applicazione secondo le leggi nazionali. E poi c'è poca chiarezza sul campo di applicazione della carta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, come sappiamo, la carta si applica sempre quando si tratta di giudicare atti dell'Unione, ma si applica al diritto degli Stati membri là solo dove questi ricadono nel campo di applicazione dell'Unione. Allora, questo discorso del campo di applicazione significa poter o no raggiungere tramite la carta il diritto degli Stati. Allora, qui abbiamo avuto due sentenze nel giro di pochi giorni che si contraddicono. Una è la famosa Eldridge e l'altra è di ieri, si chiama McCartney. È vero, si contraddicono, perché tanto la prima era generosa nel dire che può esistere una violazione così anche in assenza di mobilità, e comunque ci sono anche, e questo era poi vero anche per altre, insomma anche per Ruiz Zambrano, cioè questa in assenza di mobilità. Sul campo di applicazione Ruiz Zambrano, come? Che cosa devo specificare? La Ruiz Zambrano. Questa fattispecie di cui parlavi della mobilità. Sì, allora, Ruiz Zambrano è una sentenza in cui, facendo leva sulla cittadinanza dell'Unione, si è riconosciuto il diritto a non essere espulso da parte dei genitori di un minore che non si era spostato né lui né i genitori in un altro Stato membro. Quindi il diritto deriva direttamente dalla cittadinanza e non dallo spostamento del cittadino, come era il caso Chen, per esempio. E questo può essere salutato come una grandissima novità, se non che appunto in questa sentenza McCartney per la sposa di un altro cittadino, è un'ipotesi abbastanza simile, si è detto il contrario, si è detto questa è una fattispecie puramente interna, non ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quindi la Corte non può essere chiamata a dire se il diritto nazionale viola o no i diritti fondamentali della Carta. Quindi ci sono diverse ambiguità legate alla Carta, cioè io sono una forte sostenitrice della Carta, come tutti sanno, però insomma devo anche dire che l'adesione alla CEDU, a mio avviso, porta un quid pluris proprio perché potrebbe colmare queste lacune o quantomeno questa mancanza di chiarezza in certi punti. C'è poi, di questo ne parlerà sicuramente Papi, il ruolo dei giudici nazionali, per questo non è un dialogo, in realtà è un trilogo, come si dice in gergo dell'Europarlamento, perché comunque i giudici dovranno sempre valutare, per esempio, quando c'è un margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di una direttiva, possono chiedere alla Corte di Giustizia il rinvio pregiudiziale cosa ne pensa, ma loro in prima battuta sono chiamati ad applicare. Ora, in vista dell'adesione della CEDU, senz'altro correrà, a mio avviso, a rafforzare la sentenza Fotofrost, cioè il divieto per i giudici di essi stessi dichiarare invalidi gli atti dell'Unione, sia alla luce del diritto dell'Unione a sto punto che alla luce del diritto della CEDU. E il rinvio pregiudiziale, quindi vedo il ruolo della Corte di Giustizia nei confronti dei giudici interni rafforzato, cioè deve secondo me essere rafforzato proprio anche per reggere alla pressione esterna del confronto con la Corte europea. L'obiettivo dovrebbe essere quello di portare il più possibile tutto a Lussemburgo da subito per evitare quello strano rinvio pregiudiziale Strasburgo-Lussemburgo-Strasburgo che si va comunque profilando come soluzione di chiusura. Ci sono ancora poi dei casi, parlavo prima dei ricorsi contro i regolamenti, lì ancora c'è una strozzatura processuale, abbiamo tanti bei diritti ma la Corte di Giustizia si va solamente si va con abbastanza facilità per chiedere l'annullamento in via diretta di una decisione, ma quando si tratta di un regolamento o di una direttiva diventa quasi impossibile con le regole vigenti. Nonostante l'ammorbidimento, se lo vogliamo chiamare così, operato dal Trattato di Lisbona sulle condizioni. E quindi ci sono dei casi effettivamente in cui il giudice dei diritti, quando proprio si parla di diritti dell'Unione, potrebbe meglio essere Strasburgo, cioè appunto quando si tratti, chiaramente la Corte di Strasburgo non può né annullare né dichiarare invalido, però potrebbe portare giustizia laddove la Corte di Giustizia semplicemente rigetterebbe il ricorso dicendo tu tanto non hai una legittimazione attiva, perché non rientri nelle condizioni previste dal trattato. Così come un'altra materia dove Strasburgo può forse arrivare e dove Lussemburgo ancora non arriva, sono le operazioni della PESC, che sono sottratte alla giurisdizione della Corte di Giustizia, ma non sono invece sottratte e non saranno sottratte alla giurisdizione della CEDU. Quindi la coesistenza e il ruolo della Corte, con tutto il rispetto necessario, deve comunque, cioè non esclude secondo me il fatto che il sistema con l'adesione e la compresenza dei giudici di Strasburgo e di Lussemburgo si arricchirebbe e porterebbe dei vantaggi agli individui. E concludo dicendo che, naturalmente lo dico così in termini scherzosi, mi sembra talvolta di vedere così un approccio un po' paranoico nella Corte di Giustizia, una paura così di accerchiamento, di isolamento e questa paura di dover condividere i poteri con Lussemburgo. Io dico, ma in fondo se le nostre corti costituzionali riescono a convivere con Strasburgo, perché non può convivere la Corte di Giustizia? In fondo, una volta che la Corte di Strasburgo abbia anche detto che un atto dell'Unione viola la CEDU, che cosa può fare la Corte di Strasburgo? Semplicemente dire che un'equa riparazione deve essere effettuata. È vero che il Comitato dei Ministri della CEDU potrebbe chiedere particolari, infliggere particolari così prescrizioni all'Unione, ma è anche vero, ricordiamoci, che nel Comitato dei Ministri la maggioranza degli Stati membri saranno gli Stati membri dell'Unione, siamo azionisti di maggioranza, quindi io sinceramente non vedo se siamo uniti, ma cioè se abbiamo approvato un atto e poi ci viene contestato quell'atto, penso che sia nostro interesse difenderlo. Forse no, però insomma comunque se abbiamo questi problemi li abbiamo già in casa e non sarà l'adesione alla CEDU a crearli, anzi forse potrebbe anche in un certo senso unirci. Quindi ripeto, credo che anche i controlimiti siano una via del tutto esplorabile, credo che finora almeno la Corte di Strasburgo è stata talmente timida e talmente compiacente verso l'Unione Europea, affermando uno standard di equivalenza anche laddove probabilmente non c'era e affermandolo in maniera anche ormai a prioristica, con verifiche formali, per cui io non credo che la Corte di Strasburgo diventerà quel giudice invadente, draconiano, che a volte invece la Corte di Lussemburgo sembra temere, così come non penso che tanti di quei timori che vengono avanzati rispetto al meccanismo di cui parlerà sicuramente Valentina dell'ITIS consorzio porti la Corte di Strasburgo a indebitamente intromettersi nella competenza, nella ripartizione di competenza. Io credo che la Corte di Strasburgo farà quello che ha sempre fatto e cercherà un modus vivendi armonioso, anche perché, ripeto, la maggioranza degli stati della CEDU sono comunque stati membri dell'Unione. Quindi ecco, se posso concludere, io concluderei forse controcorrente da quello che vedo in giro nella dottrina, ma con un messaggio di ottimismo su questa convivenza tra giudici. Molte grazie alla professoressa Rossi, anch'io condivido il suo ottimismo. Alla fine queste complesse questioni finiscono per aggiustarsi, però sono questioni complesse, ulteriormente complicate, come vedremo, dalla originalità del Regno Unito di cui adesso ci parla il professor Biondi. Grazie. Beh, innanzitutto un ringraziamento non solo da parte mia, ma da parte di tutti i colleghi del King's College che hanno partecipato a questo progetto. E devo dire che tutti abbiamo apprezzato questa collaborazione italo-britannica o anglo-italiana, dipende da come la vogliamo mettere. E oggi vi affliggo, in realtà ci aveva un collega un pochino più british, ma insomma cercherò di farmi comprendere con il mio anglo-fiorentino accent, ma spero almeno sia risparmiato sulla traduzione. Per cercare un po' di darvi un'idea sulla situazione in Inghilterra, comincerei da un esempio pratico, un caso che è attualmente pendente proprio di fronte alla Corte Europea di Giustizia, e a seguito di una serie di rinvii di domande pregiudiziali sollevate dalla Corte d'Appello inglese. Il caso riguarda il signor Sadi, che è un cittadino iraniano entrato per la prima volta in Europa, in Grecia, e poi arrivato insomma rocambolescamente in Inghilterra. Gli era stato negato il diritto di asilo in Inghilterra e contemporaneamente il governo ne aveva ordinato il ritorno in Grecia. Sadi contesta di fronte alle corti tale decisione con l'argomento che i diritti garantiti dalla CEDU, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali, non sarebbero stati protetti nel caso di un suo ritorno in Grecia, perché le condizioni, eccetera. Tra l'altro è un caso su cui si è già pronunciata Strasburgo, quindi insomma ci sarà da divertirsi per altri problemi. Però, tralasciando un secondo i problemi sostanziali, che naturalmente è un caso che riguarda la Convenzione di Dublino sul diritto d'asilo, il punto che mi interessava qui è questo, che in primo grado e di fronte alla Corte d'Appello l'avvocato del governo aveva praticamente sostenuto, anche un po' in maniera ambigua, che in realtà sì, va bene la Carta dei diritti fondamentali, ma insomma non doveva essere presa in considerazione perché il suo status nel diritto inglese era perlomeno ambiguo. E quindi era un po' un invito al giudice, lascia perdere, insomma, non importa. Detto fatto, la Corte d'Appello ha fatto due cose. Uno, ha chiesto, una regola di procedura inglese, una dichiarazione ufficiale da parte dell'Attorney General, che è un po' l'avvocato dello Stato, proprio sulla questione. E l'Attorney General ha dovuto ammettere in corte che no, in effetti la carta si applica al diritto inglese tranquillamente. Secondo, tanto per essere sicuri, la Corte d'Appello ha anche deciso di sollevare una questione pregiudiziale di fronte a Lussemburgo, proprio chiedendo: ma esiste in diritto inglese qualche limitazione al possibile uso della carta? Come Corte nazionale ho dei problemi? E naturalmente la Corte si riferisce qui, come si riferiva appunto anche l'avvocato del governo inglese, al famoso protocollo 30, che è stato appunto adottato al momento della ratifica del Trattato di Lisbona, che sembrerebbe differenziare la posizione della Gran Bretagna e della Polonia rispetto appunto alla protezione dei diritti fondamentali della Carta. Il governo non è stato felice. E appunto il caso Sadi è in un certo senso abbastanza illustrativo di quello che sta un po' succedendo in Inghilterra in questo momento. Una crescente tensione tra sfera politica e sfera giuridica, sia su questioni di diritto, insomma di integrazione europea, una tensione tra governo e giudici, e come vedete niente, ogni riferimento a altri stati membri è puramente casuale, tensione, dicevo, che trova proprio sulla questione della carta un terreno molto fertile. E perché? Beh, allora, cerchiamo un po' di capire esattamente se questa tensione ha dei motivi veri o si tratta comunque alla fin fine solo di retorica politica. Allora, come è appunto piuttosto noto, al momento della ratifica del trattato la Gran Bretagna ha negoziato insieme alla Polonia questo protocollo numero 30, che, come dicevo, sembrerebbe introdurre una differenziazione tra Gran Bretagna e Polonia e il resto degli Stati membri. Ora, naturalmente, qual è il problema? Come diceva giustamente Lucia, c'è stata questa grande enfasi sul Trattato di Lisbona, sulla protezione dei diritti dell'uomo, Lucia ha menzionato la sentenza Cadi, in cui la Corte ha definito il rispetto dei diritti fondamentali come cardine dell'intero sistema giuridico. Quindi in effetti è abbastanza sconfortante che nello stesso momento due Stati membri si dicano vabbè, noi della Carta non ce ne importa tanto. Però appunto vediamo se questa è la realtà o meno. E mi permetto un piccolo mia opinione personale un po' sulla questione Europa e Gran Bretagna. Ora, come è noto, anche insomma il mio paese, il paese dove vivo e lavoro, non è noto per essere uno dei paesi più entusiasti verso l'integrazione europea, ed è insomma, anche visivamente ogni incontro pubblico la bandiera blu con le stelle d'oro non c'è, probabilmente forse l'unico Stato membro che non lo mostra mai. E naturalmente appunto è un paese noto per saper difendere le proprie posizioni. Eppure, se si va a guardare il sistema giuridico, è mia opinione che in realtà è un sistema giuridico che ha dato prove di grande lealtà verso il diritto europeo. È uno dei sistemi giuridici in cui in realtà esiste un radicato e profondo europeismo giuridico. E naturalmente qui gli esempi sono tanti. Il classico che si fa in genere è quello del fatto che l'Inghilterra recepisce sempre in tempo e puntualmente le direttive, ma questo non è un buon esempio perché era stata proprio una specie di ordine del primo ministro Thatcher per dimostrare che mentre noi siamo bravi, voi continentali siete sempre in ritardo. Ma mi riferisco più che altro proprio all'applicazione giudiziaria, perché in realtà un sistema quale quello inglese, basato sul rispetto del precedente giudiziario, eccetera, di common law, ha molti tratti in comune con il diritto comunitario. E ad esempio, se si va a vedere, classico esempio, principio di supremazia del diritto europeo, che ha tanti grattacapi e mal di testa suscitato nelle corti costituzionali di altri Stati membri, in Inghilterra non ha mai creato grandi problemi. È famoso un dictum del giudice Bridge nel caso Factotum, quello del diritto di pesca nel Mare del Nord, in cui caso dei primi anni 90, in cui appunto il giudice ma che c'è di nuovo di strano nell'accordare precedenza al diritto europeo rispetto al diritto nazionale, lo si sa dagli anni 60. Ma anche in altri settori delicati le corti inglesi hanno ottemperato ai dettami del diritto europeo. Penso ad esempio a un altro caso classico, il tema della responsabilità dello Stato per danni, Frankovic e Factotum, su cui le corti nazionali sono, tra l'altro la Corte di Cassazione italiana, ha avuto tanti problemi. Corti inglesi tranquillamente accordano i danni ai vari ricorrenti. In materia di tassazione diretta, tra l'altro anche in questo settore il governo ha dei grossissimi problemi a ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia in materia di tassazione diretta, le corti inglesi non ne hanno nessuna. Non volevo fare un ripasso del diritto comunitario, ma solo ancora appunto dimostrare il fatto che una cosa è la realtà, è la retorica politica, la posizione del governo, e l'altra è l'applicazione quasi quotidiana del diritto comunitario di fronte alle corti inglesi. E un po' la storia del protocollo è simile. Da una parte, al momento della sua adozione, non vi è dubbio che il governo di allora l'abbia venduto, lo dico tra virgolette, soprattutto ai media popolari, come un vero e proprio opt-out. Addirittura il protocollo 30 era stato definito come una delle prove più lampanti che finalmente la Costituzione europea era morta e sepolta. Questo di facciata. In realtà, se si va a vedere la posizione ufficiale del governo, ad esempio espressa di fronte a comitati parlamentari competenti, il governo ha sempre dichiarato che il protocollo era da considerarsi un documento esplicativo. E ho anche una citazione dell'allora avvocato generale, Lord Goldsmith, che aveva dichiarato: il protocollo non costituisce in alcun modo un opt-out, nel senso che i diritti contenuti nella Carta non saranno applicati in maniera non uniforme ai cittadini britannici. Più chiaro di così. A questo punto magari però è opportuno dare anche un'occhiata più precisa a cosa contiene questo protocollo. E anche se si va a leggerlo attentamente, io sono dell'opinione che in realtà il testo non presenta, insomma, non dà adito a grandi scandali. Anche qui, articolo 1. La Carta non estende la competenza della Corte di Giustizia o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti, le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che esse contiene. Che cosa si dice? Beh, in realtà si ribadisce che comunque sia l'ambito della Carta è di per sé, il campo di applicazione della Carta è di per sé limitato, ovvero si applica, e questo c'è, appunto, c'è scritto nell'articolo 51, come ha detto Lucia, si applica alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. E qui ha ragione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia può essere ambigua, però rimane il principio che se una fattispecie non presenta alcun aspetto di connessione con il diritto comunitario, la Carta non si applica, appunto. E qui c'è anche un'altra sentenza della Corte che è del 2010, sempre in materia di adozioni, in cui la Corte dice: le disposizioni della Carta si applicano ai termini del suo articolo 51 numero 1 agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. In virtù del numero 2, la Corte è chiamata a interpretare alla luce della Carta il diritto dell'Unione nei limiti della competenza che le sono attribuite. Ora, che il problema sia stabilire quali sono esattamente le competenze dell'Unione, d'accordo, però in realtà, appunto, non è questione dell'applicazione della Carta o meno. Naturalmente, e qui va detto e ribadito, che anche se, appunto, il campo di applicazione è limitato, questo non vuol dire che non vi siano effetti, perché naturalmente la Carta, come tutti si sa, si applica come, cioè, si acqua alla stregua come il principio generale del diritto europeo, in quanto, appunto, un'altra dichiarazione annessa al trattato lo rende esplicito. Si fa riferimento, come al solito, agli altri strumenti di diritto internazionale di protezione dei diritti dell'uomo e alle tradizioni comuni costituzionali. Quindi, in realtà, le disposizioni della Carta devono comunque essere applicate alla stregua dei principi generali di diritto europeo e dunque applicate da tutti gli Stati membri, compresa Gran Bretagna. E su questo ci sarebbero tantissimi esempi di sentenze di giudici inglesi che hanno usato le disposizioni della Carta come principi generali di diritto. Un punto interessante e che comunque va citato è la questione dell'articolo 2 del protocollo, che recita che praticamente nessuna disposizione contenuta nel titolo quarto, il titolo quarto è quello intitolato solidarietà, o quindi diritti sociali, diritto di sciopero, ingiusto licenziamento, eccetera, si dice nessuna disposizione crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito, salvo nella misura in cui la stessa Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tale diritto nel rispettivo ordinamento interno. E anche qui, naturalmente, il riferimento politico è chiaro. Ci sono state preoccupazioni precise espresse dalla CITI e dagli imprenditori di non veder rinascere un diritto del lavoro che è stata abolita negli anni, più o meno abolita negli anni, insomma, del governo Thatcher, sotto forma, appunto, di diritto europeo. Però anche in questo caso è difficile arrivare a leggere questo articolo 2 come un vero e proprio opt-out, perché, insomma, a parte, appunto, le limitazioni stesse contenute nel titolo quarto della Carta, che fa riferimento sempre a prassi e diritti nazionali, anche in questo caso non credo che se si presentasse un caso su uno dei diritti contenuti le corti inglesi potrebbero completamente essere cieche e ignorare interamente la fattispecie. E qui io faccio sempre l'esempio della famosa sentenza Viking, che probabilmente tutti si ricordano, insomma, decisione della società Viking di trasferire la propria sede d'affari in Estonia, decisione del sindacato finlandese di cercare di impedirlo attraverso una serie di scioperi. Ecco, in quel caso lì, ad esempio, la società Viking aveva pensato di essere furba e di citare in giudizio non tanto il sindacato finlandese quanto il sindacato europeo dei trasporti. Perché? In modo tale da far assumere la giurisdizione alle corti inglesi, che si ritenevano in teoria più favorevoli all'imprenditore. Beh, in realtà, come sapete, la storia è che la Corte d'Appello inglese ha sollevato ben 11 questioni pregiudiziali, molte delle quali proprio sull'estensione del diritto di sciopero. E tra l'altro la Corte europea nell'accettare come giustificazione una possibile libertà, una possibile restrizione alla libertà di circolazione proprio rispetto dell'articolo 28 della Carta, diritto di sciopero, nel dire si riafferma nell'articolo 28 il diritto di sciopero, ancora una volta se lo riafferma si dice comunque è parte di un principio generale di diritto, e quindi in realtà sarebbe stato difficile per la Corte inglese ignorare la sentenza della Corte di giustizia. Poi in realtà la questione è stata settled out of court, quindi non abbiamo avuto la decisione della Corte d'Appello, ma era chiarissimo che comunque già nel riferire domande alla Corte di giustizia il giudice inglese era orientato comunque a discutere l'articolo 28 della Carta sul diritto di sciopero. Naturalmente, fin qui, praticamente, se mi dovessi autoriassumere, ho detto, vabbè, non ci sono grandi problemi, perché in realtà alla fin fine la Carta insomma, si applica in maniera abbastanza limitata, e quindi è una posizione in realtà molto britannica. Però, per cercare di andare un pochino oltre, secondo me, ripeto, proprio il sistema di common law permette sviluppi e direzioni impreviste. E a mio avviso nella recentissima giurisprudenza delle corti inglesi si notano già segnali che in realtà può darsi la Carta abbia un ruolo ben preciso. Innanzitutto non è da sottovalutare l'importanza della Carta come canone interpretativo, e è molto interessante guardare il settore dell'immigrazione. Questo sì davvero un settore di opt-out, in cui appunto la Gran Bretagna ha sempre assunto un atteggiamento diverso dal resto degli altri Stati membri. Ad esempio, e qui non solo dal diritto comunitario, ma per esempio la Gran Bretagna non ha ratificato altri strumenti, eccetera. E mi piace citare un caso in cui appunto la giurisprudenza inglese ad esempio ha dedotto dalla Carta e da altri strumenti un obbligo della Gran Bretagna a rispettare comunque il quarto protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di espulsioni collettive. E anche qui, se mi permette la citazione dalla sentenza, la Corte inglese nel discutere il valore della Carta dei diritti fondamentali ne parla dicendo: la Carta deve essere correttamente consultata nella misura in cui si proclama, si riafferma o chiarisce il contenuto di quei diritti umani che sono generalmente riconosciuti in tutta la famiglia delle nazioni europee. Quindi in realtà si sopperisce a certe mancanze usando anche la Carta. Un altro paio di esempi che può essere interessante discutere. Ad esempio, è sempre in materia appunto di immigrazione e appunto in cui il governo inglese cerca sempre appunto di differenziarsi. Un caso del 2010, il caso Buromand, che anche questo riguarda un cittadino iraniano. E in questo caso Buromand contestava l'espulsione decretata dal governo inglese verso l'Iran, con il fatto che ci sarebbero stati rischi di una condanna a morte se l'ordine di espulsione fosse stato eseguito. E Buromand aveva però anche avanzato un altro argomento, e in particolare rispetto al suo status di protezione sussidiaria che è previsto dall'articolo 2 della direttiva 2004 del 38. Il governo inglese aveva risposto: non ci interessa, perché non può scattare questo obbligo di protezione sussidiaria, perché Buromand comunque è una persona poco raccomandabile, è stata condannata a 3 anni, quindi fuori. Ecco, quello che è interessante è che la Corte d'Appello ha praticamente accettato di discutere l'articolo 47 della Carta, che è l'articolo che prevede che ci deve essere una tutela giudiziaria effettiva, in relazione alla precedente condanna di Buromand. Quindi in realtà qui, nonostante il nesso con il diritto comunitario non fosse diretto, perché si parlava dell'interpretazione direttiva, la Corte inglese è andata oltre e ha cercato di garantire comunque alcuni diritti al signor Buromand, pur appunto con un elemento di connessione non così evidente. Un altro caso che secondo me è abbastanza drammatico, però è ingegnoso è la sentenza Zagorski. Questa è una sentenza in cui il ricorrente è un condannato a morte del Tennessee. E questo signore, pur di evitare naturalmente il ritorno al Tennessee, aveva cercato ogni argomento possibile. E uno degli argomenti è questo, che in realtà la proibizione della pena di morte contenuta nell'articolo 2 della Carta, diritto elementare, obbliga la Gran Bretagna ad impedire l'esportazione verso gli Stati Uniti di un medicinale usato per le iniezioni letali nel Tennessee. Tra l'altro, secondo me, si poteva trovare anche il collegamento con libera circolazione delle merci, eccetera. Però, naturalmente qui si voleva dimostrare che, a differenza della CEDU, che naturalmente prevede all'articolo 1 una clausola di giurisdizione, cioè le disposizioni si applicano appunto alla giurisdizione dei paesi firmatari, nella Carta non vi è un riferimento analogo. Interessante è che il giudice inglese, pur rigettando nel merito l'argomento, dicendo no, comunque sia, è chiaro che ci si riferisce solo agli Stati membri e dunque non si può estendere l'applicazione della Carta anche in questa fattispecie, altrimenti non ci sarebbe certezza giuridica, ha comunque accettato, prima intanto di discutere l'argomento, e il secondo, cioè una lunghissima disquisizione sulla pena di morte e il resto, in cui si continua a riaffermare che appunto la Carta viene considerata non soltanto uno strumento interpretativo, ma in realtà come propria fonte autonoma di protezione del diritto. Quindi in realtà, appunto, se si va a vedere ancora, la mia idea è quella, appunto, in un certo senso, a parte appunto la retorica politica, si va a vedere la quotidianità dell'applicazione del diritto, non mi sembra di vedere problemi di applicazione differenziata degli standard di protezione dei diritti dell'uomo in Gran Bretagna. In realtà, secondo me, appunto, il punto fondamentale è che la grande controversia, il grande dibattito sulla Carta si riferisca non tanto alla questione dei diritti umani, sì o no, quanto appunto al timore che la Carta sia usata come cavallo di Troia per un'estensione eccessiva delle competenze comunitarie. E questa sì che è una vera ossessione degli Stati membri, esatto. E in realtà la Gran Bretagna su questo ci sono dei problemi. E magari vi lascio con una nuova notizia: il Parlamento inglese si sta prestando a approvare una nuova legge, si chiama European Union Act. L'European Union Act prevede due cose importanti. La prima è il fatto che ogni modifica del trattato e altre possibili modifiche del diritto europeo debbano essere automaticamente sottoposte al referendum popolare, che è una novità costituzionale enorme per la Gran Bretagna. E in particolare, per quello che ci interessa, viene ribadito all'articolo, mi sembra, 18 della legge, che comunque tutti i diritti di matrice EU, quindi anche quelli derivanti dalla Carta, trovano la loro unica fonte di legittimazione nella sovranità del Parlamento. Il che è naturalmente una vera e propria provocazione, perché naturalmente è contrario a ogni principio classico, così come sviluppato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Van Gendel-Loss e Costa. Naturalmente a questa provocazione come si può rispondere? Beh, da un lato nel richiedere probabilmente alla Corte Europea uno sviluppo di una giurisprudenza limpida e ben chiara anche sul rispetto dei diritti dell'uomo e non soltanto dotata da un'ansia di competizione con Strasburgo, che mi sembra sia l'attuale mood. E dall'altra probabilmente, e qui faccio l'atto di fede ancora nei giudici, probabilmente toccherà ancora una volta ai giudici inglesi ricordare al governo, e mi permetto un'ultima citazione, come ha fatto qualche anno fa il grande giudice Stein, purtroppo ora in pensione, che disse, con tutto il rispetto per le teorie ottocentesche sulla sovranità, e mi permetto una sola frase in inglese, dice, mi sembrano terribly out of fashion in the modern UK and there's nothing worse in life than being out of fashion. Quindi spero che non torneranno le mode e che queste idee siano per sempre fuori di moda. Grazie. Molte grazie, professor Biondi. Persino dal Regno Unito ci viene qualche ventata di speranza adesso, no? Non me l'aspettavo. Adesso la parola è a Giuseppe Bronzini, che parlerà dell'efficacia della carta ancora una volta, a partire invece dalla giurisprudenza interna. Grazie. Come accennava prima Lucia, io vorrei trattare questo argomento, cioè cercare di sintetizzare quali sono un po' le linee della giurisprudenza italiana in materia di applicazione diretta o indiretta della Carta dei diritti fondamentali dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona, facendo però una premessa, anzi una duplice premessa, molto brevemente. La duplice premessa è la seguente: innanzitutto ricostruire sommariamente quali sono le mission della Carta, cioè quali sono gli obiettivi che, ragionevolmente intesi, erano stati attribuiti all'elaborazione di un Bill Rights europeo e che, nonostante le traversie con cui poi la Carta è diventata obbligatoria, possiamo ritenere oggi ragionevolmente perseguibili. E la seconda premessa è vedere come la Corte di Giustizia, molto sommariamente, ha reagito in una raffica di sentenze, lo ricontate proprio ieri, sono 34, che dà l'idea comunque dell'impegno della Corte, perché la Corte non ha emesso sulla base della carta nessuna sentenza dal dicembre del 2000 fino al giugno del 2006, dal giugno del 2006 almeno noi del sito che le contiamo con i nostri, diciamo, con le nostre insufficienze di carattere matematico, comunque grosso modo è così, dal 2006 all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ne ha emesse 16 e oggi ne ha emesse 34 in poco più di un anno, fra l'altro alcune di eccezionale valore anche dal punto di vista simbolico, e poi vedere se lo stesso impatto che si dimostra a livello di efficacia della Carta presso la Corte di Giustizia, che è già ricordato su alcuni punti Lucia, la ritroviamo nella giurisprudenza nazionale. Anticipo che il mio giudizio è, diciamo, cauto sull'impatto della Carta di Nizza presso i giudici italiani, cioè non ho realizzato, anticipo le mie conclusioni, quel fortissimo effetto che invece la conferita obbligatorietà alla Carta ha avuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Questo per una serie di ragioni che magari, se ci sarà tempo, dopo vedremo, che potremo sviluppare nel dibattito. Ricominciamo dalle mission. Le mission, per sintetizzarla, possiamo andare al documento ufficiale che ha dato origine a tutto il progetto Carta, che è la relazione della Commissione Simitis, che poi è stata in toto recepita dalla prima convenzione. Per la Commissione Simitis gli scopi dell'approvazione della Carta erano tre. Innanzitutto conferire certezza alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali, conferendo un documento scritto che consentisse al cittadino europeo di ricostruire quali erano i suoi diritti senza andarsi a disperdere nelle mille rivoli di una giurisprudenza, per giunta, come ci ha ricordato il professor Biondi, anche molto costruita per caso e molto simile alla giurisprudenza tipica della common law. La seconda problema era un problema di legittimazione, vale a dire una cosa è proteggere i diritti, un'altra elaborarla, anche se la funzione giurisdizionale non è, contrariamente a quello che sostengono chi ci governa, un qualcosa di estraneo alla sovranità popolare, però certamente questo metodo sovraesponeva la Corte di Giustizia e la poneva nella problematica situazione della creazione addirittura dei testi fondamentali in materia di tutela dei diritti fondamentali. Il terzo obiettivo era l'equiparazione, la tendenziale equiparazione dello status dei diritti socio-economici rispetto ai diritti della tradizione liberal-democratica, cioè i diritti civili e comunque i diritti già protetti nella CEDU. Su questo terzo punto bisognerà forse fare un'ulteriore, diciamo, riflessione che non posso sviluppare qui. Il convegno che abbiamo anche come Fondazione Basso Osservatorio organizzato con la rivista giuridica del lavoro qui a Roma, al CNEL, il 14 giugno, sarà un'occasione proprio per sviluppare questo tema. Però la vera, diciamo, meta mission che possiamo con cui termine, diciamo, possiamo riunificare tutte queste istanze, è quello in sostanza di creare un Higher Law, cioè un Bill of Rights, un insieme di norme di carattere primario, di valore sostanzialmente costituzionale, capace di imprimere una tutela a carattere omogeneo, una tutela forte nel rispetto dei diritti fondamentali, non solo a livello di legislazione europea, ma anche a livello di legislazione interna che in qualche modo incontrasse la legislazione sovranazionale. Ecco, questi sono senz'altro degli obiettivi, come dicono gli inglesi, at stake, cioè che sono nelle corde della giurisprudenza multilivello, e direi che questi effetti di una legge più alta, capace appunto di, in base alla quale si possono sindacare gli atti legislativi, anche tipo legge, tipo regolamenti o tipo direttive, e addirittura interpretare le norme dei trattati conducendo a un bilanciamento di diritto nuovo, ha avuto effetti spettacolari già in 3 sentenze della Corte di Giustizia emesse dopo il 1° dicembre del 2009, che hanno 2 annullato dei regolamenti per la prima volta dell'Unione Europea, in parte qua, per violazione dei diritti fondamentali, e l'effetto più spettacolare di tutti con la sentenza Associazione dei Belgi, in cui una direttiva di parità uomo-donna è stata annullata per contrasto con il principio costituzionale europeo della parità uomo-donna. Non c'è, diciamo, decisione più simbolica di questa che per dimostrare appunto il carattere di Higher Law della Corte, raggiunto dalla Carta di Nizza, e quindi il ruolo di Corte Costituzionale, come diceva Lucia, che attraverso questo effettivamente la Corte del Lussemburgo assume. Ora, utilizzare la Carta, e poi veniamo invece alla giurisprudenza nazionale, mi sembra che la Corte di Giustizia, a parte questa sentenza del 5 maggio che ha lasciato anche a me molto perplesso, perché sembra il contrario di quello che avevano appena detto nella Zambrano, anche se si peritano di spiegare la differenza tra i 2 casi che io non ho molto ben capito. Comunque, in queste 34 sentenze, nel complesso, anche perché il giudizio su una giurisprudenza si dà nel complesso, non possiamo sempre fare l'errore di Viking, Lavalle, e leggere una giurisprudenza di decenni sui diritti sociali fondamentali sotto la specie di un'unica sentenza, anche se certamente molto rilevante. Ebbene, la Corte di Giustizia ha compiuto una serie di operazioni molto importanti nel valorizzare la Carta. La prima l'hanno già ricordata i relatori che mi hanno preceduto, cioè si è dato in sostanza un'interpretazione dell'articolo 51, anche se sempre con paletti, avvertenze, eccetera, però sostanzialmente piuttosto ampia, cioè si è detto che si applica la Carta dei diritti fondamentali ogni qualvolta la diciamo normativa interna cade nella zona d'ombra, diciamo così, nel campo di applicazione del diritto sovranazionale. Il documento della Commissione, molto importante, sull'enforcement della Carta, usa il termine link. Ora non c'è termine più generico di link per indicare una connessione diretta, indiretta, molto indiretta. Nella sentenza, ad esempio, FUS, sono 2 le sentenze FUS in materia di orario di lavoro, la sentenza emessa in via d'urgenza, in sostanza il lavoratore chiedeva l'applicazione del limite massimo fissato dalla direttiva europea in materia di orario di lavoro, e diciamo, risultava dagli atti che sì, gli avevano dato questo limite orario, ma per darlo l'avevano spostato in un altro stabilimento dove vigeva un limite minore. La Corte di Giustizia cosa dice? No, qui si è lesa l'articolo 47 della Carta, si tratta di un trasferimento che non è stato impugnato, un trasferimento implicito, una punizione, quindi non è stato leso il diritto del lavoratore a appunto al rispetto dell'orario massimo europeo, e quindi annulla il trasferimento. Quindi cioè, noi sappiamo che in materia di trasferimenti l'Unione Europea non ha nessun tipo di competenza, quindi passando attraverso, diciamo, un link molto indiretto, secondo me la Corte in tutte queste sentenze mostra quasi mai di ritenere che si tratti di una questione di diritto interno. Dà un'interpretazione molto ragionevole e molto estensiva, che per noi italiani, diciamo, no, scusate, per noi italiani, per noi giudici è un punto fondamentale, perché se si accede a questo tipo di interpretazione, i casi in cui interviene la Carta sono moltissimi. Il secondo punto molto forte in cui la Corte di Giustizia è riuscita a valorizzare al meglio la Carta è stata proprio sul rapporto con la CEDU. Perché? perché in sostanza si è usata le spiegazioni al contrario di come volevano fossero usate queste spiegazioni gli inglesi. Gli inglesi hanno voluto queste spiegazioni persino richiamate all'articolo 6 perché secondo loro le spiegazioni blindano le interpretazioni. E invece no, la Corte di Giustizia ha usato le spiegazioni per verificare in sostanza se alla luce delle spiegazioni la norma della carta era identica alla norma della CEDU. Verificato sulla base delle spiegazioni questa coincidenza, la Corte si è ritenuta quindi nel diritto, dovere e potere di applicare anche la giurisprudenza CEDU, salvo sempre, e qui lo diceva Lucia prima, la possibilità di non applicare la giurisprudenza CEDU, di superarla se il trattamento offerto dal diritto dell'Unione o dalla stessa carta interpretata dalla Corte di Giustizia fosse più favorevole. Quindi le spiegazioni in sostanza non sono mai state utilizzate in malam partem. Solo la Corte italiana, purtroppo, e poi ne parleremo, le ha usate nella famosa sentenza sulle nozze gay, in cui le ha usate alla lettera, e sono sempre state utilizzate in modo da avere la possibilità per la Corte di Giustizia di giocare sulla giurisprudenza delle due corti europee alla luce del principio del trattamento di miglior favore. L'altro vettore che la Corte di Giustizia ha utilizzato nel valorizzare l'utilizzazione della carta è stato il discorso, per esempio, di una grande enfasi che è stata conferita all'articolo 47 della carta, o al problema dei regolamenti comunitari, no? È la sentenza che citavi te, Lucia, che è vero che è negativa perché alla fine il giudizio che la Corte di Giustizia dà sul provvedimento del giudice interno, in questo caso belga, è un provvedimento forse non condivisibile nel merito, ma nel metodo è importantissimo, perché in sostanza che si è fatto? Il ragionamento seguito dalla Corte qual è stato? Noi abbiamo dei regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, anche in materie che rimangono completamente sotto dominio statale, perché in quel caso il procedimento di adozione era un atto belga, compiuto secondo leggi belghe e regole belghe. Dopodiché, siccome questa sentenza viene esportata in un contesto comunitario, alla luce di un regolamento comunitario, la Corte di Giustizia ha ritenuto che comunque dovesse verificare la compatibilità con la carta. Era un vettore di espansione della carta a cui non si era mai pensato, e ha fatto questa verifica, ha detto che la verifica era positiva, che non venivano lesi i diritti della carta, ma abbiamo un terzo settore gigantesco di espansione dell'utilizzazione della carta. Vabbè, non continuo su questa utilizzazione così molto forte della carta di Nizza come Higher Law, che conduce, primi casi nella storia, all'annullamento di due regolamenti e addirittura di una direttiva. Ecco, se torniamo in Italia, mi sembra che questo impatto non così forte non ci sia stato. C'è da interrogarsi su questa ragione, anche perché mi sembra abbastanza evidente che il corrispondente nell'ordinamento interno del potere di annullamento di una direttiva sia la disapplicazione della legge ordinaria, e quindi possiamo tranquillamente dire che in tutte le sentenze che abbiamo raccolto nel sito, forse qualcuna ce ne sarà sfuggita, i casi di annullamento non esistono, o al più esisteranno uno o due casi, ma insomma sono certissimamente minoritari. Io, per un elenco un po' dei casi interni di applicazione della carta di Nizza, voglio rinviare a una relazione di Linda D'Ancona che abbiamo pubblicato nel sito, che è una relazione a un convegno che le prende in esame. Condivido abbastanza il giudizio che dà alla fine Linda di questa situazione, che anche lei registra. Innanzitutto, i giudici italiani tra i giudici nazionali sono quelli che erano già andati molto avanti. Seguiti anche dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza 135 del 2002, in quanto la carta aveva portato a una applicazione, un'utilizzazione abbastanza diffusa come elemento interpretativo. Il mio collegio, che mise la famosa prima sentenza sulla carta, disapplicava, diciamo, alla luce della carta, però in realtà disapplicava alla luce della CEDU. In molti casi di disapplicazione ex primo dicembre del 2009 sono casi di disapplicazione ex CEDU e non ex carta. Quindi la carta si era diffusa come elemento che entrava, diciamo, quotidianamente nei limiti appunto di questo link con le questioni sovranazionali nel gioco interpretativo dello ius dicere quotidiano. Le due, diciamo, ricognizioni puntuali che abbiamo, quella dal 2000 al 2004 fatta da Celotto e dalla Pistorio, quella successiva fatta dal professor Caruso con l'Università di Catania, dimostrano proprio questo, che l'elemento della carta è sempre stato utilizzato dai giudici italiani in buona frequenza come elemento ad adiuvandum per rendere più sicura la decisione, per prendere delle decisioni più problematiche e quindi fortificarle con argomenti che afferivano a, diciamo, principi costituzionali comuni, quindi diciamo, rafforzati da questo elemento sovranazionale. I due punti più alti in questa giurisprudenza precedente, il 1 dicembre 2009, sono appunto la sentenza Englaro, in cui la carta entra in gioco anche se in un'argomentazione reticolare, per cui sono vari i punti di appoggio della decisione, compresa la norma costituzionale, la stessa decisione sul consenso informato della nostra Corte Costituzionale e quell'orientamento della Corte di Cassazione che in materia di diritti dei minori, in particolare di genitori di minori in età scolare privi di permesso di soggiorno, aveva già, diciamo, si era ancorata alla carta di Nizza, i diritti insieme alla CEDU, per cercare di consentire al genitore di avere un permesso di soggiorno al di là delle formulazioni letterali della legislazione interna. Ecco, col 1 dicembre del 2009 che cosa cambia? Dunque, innanzitutto abbiamo una serie di ditemi voi quando sto, una serie di sentenze della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale effettivamente è quella che ha registrato per primo la situazione e che è intervenuta, diciamo, puntualmente, ha registrato che c'era un prima, c'era un dopo, una preistoria e una storia. La prima sentenza è quella numero 28 del 2010, in cui non viene applicata la carta, perché viene applicata la legislazione comunale, una legislazione comunitaria in materia di rifiuti, e però la Corte Costituzionale registra che in virtù dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dall'annullamento della legislazione italiana per contrasto con questa direttiva dei rifiuti conseguiva l'applicazione del principio del 49, secondo, cioè il principio della lex mixior e quindi della sua efficacia anche a carattere retroattiva, cioè dell'applicazione all'imputato del trattamento in miglior favore, anche se incredibilmente riserva poi al giudice ordinario la valutazione in concreto dell'operatività di questo principio. Invece molto interessante è una sentenza che non viene mai citata, perché viene citata peraltro, è la sentenza numero 93 dello stesso anno. Dunque, si tratta in sostanza non di un'applicazione della carta, ma di un'applicazione della CEDU, perché la Corte Costituzionale applica la CEDU in materia di pubblicità dei procedimenti camerali, per esempio di confisca, in materia di misure di prevenzione. E quindi viene applicata la CEDU e viene applicato l'articolo 117, la CEDU come parametro interposto e la norma annullata. Però la Corte Costituzionale a questo punto fa un ragionamento che è molto interessante. Proprio poi ne parleremo dopo se avremo tempo, per, diciamo, l'influenza che comunque la carta, come Heidegger, lo sovranazionale, anche al di là dei limiti dell'applicazione dell'articolo 51, deve necessariamente esercitare come fonte di interpretazione anche quando non viene, diciamo, richiamata e implementata direttamente. Perché a questo punto si chiede la Corte Costituzionale, noi a questo punto dobbiamo applicare il principio di pubblicità dei processi. Sappiamo che la giurisprudenza CEDU ha come limite all'ingresso nell'ordinamento interno, non i limiti, i controlimiti, ma i limiti costituzionali, cioè non deve contrastare con nessun principio o norma costituzionale. E a questo punto d'ufficio richiama, in un caso che non è di diritto comunitario, in cui la carta quindi non opera, il principio posto dall'articolo 47, paragrafo secondo della carta di Nizza, cioè dice che il principio della pubblicità dei processi è comunque coerente con quanto previsto dalla Carta di Nizza e con la normativa internazionale. Quindi interpreta, diciamo, il nostro ordinamento alla anche costituzionale alla luce della Carta di Nizza, in un caso in cui la Carta di Nizza non è applicabile neanche in astratto, perché siamo fuori dell'articolo, dell'articolo 51 secondo me. Questo è importante perché per la questione che poi dirò da qui a venire. Poi abbiamo la sentenza, sulla quale vorrei essere rapidissimo, 138 in materia di nozze gay, che, diciamo la verità, è una sentenza molto molto negativa. Innanzitutto è una sentenza contraddittoria, perché in una parentetica la Corte dice che potrebbero esserci dei problemi di applicabilità della carta alla fattispecie in concreto, perché la questione del matrimonio è riservata alla competenza nazionale. Subito dopo questa parentetica però la Corte scende nel merito e quindi esamina se alla luce della formula e della lettera dell'articolo 9 della carta esista un diritto per una coppia gay a contrarre matrimonio. E questo è un caso grave, perché la Corte di Giustizia non l'ha mai fatto, come dicevo prima, richiama letteralmente le spiegazioni, cioè le richiama all'inglese come fonte di sbarramento per l'opera discrezionale del magistrato. In più, a mio parere, nel valutare anche il contrasto della normativa italiana con la famosa giurisprudenza della CEDU e la sentenza Goodwin, si evita il problema molto molto superficialmente, rilevando che nella sentenza Goodwin si trattava di un matrimonio tra un soggetto e un altro soggetto transessuale, che aveva cambiato il proprio sesso, quindi non di una coppia gay, che quindi il caso era diverso, senza però entrare minimamente nel problema dei profili discriminatori che sussistono in una situazione di anomia totale nel nostro ordinamento giuridico a carico delle coppie gay. Fra l'altro, nella sentenza che voi conoscete bene, recente, contro l'Austria, la Corte di Strasburgo ha rilevato il non contrasto della legislazione austriaca in materia di unioni di fatto anche gay, solo perché l'Austria aveva immediatamente, poco prima della sentenza, approvata una normativa molto avanzata in questa materia e ha osservato, ha qualificato espressamente l'unione tra gay come unione di carattere familiare. Ora, nella sentenza della Corte italiana queste cose sono completamente dimenticate e trascurate. Non da ultimo devo rilevare che sono rimasto molto meravigliato per la mancanza di un monito solenne al legislatore che tutti si aspettavano, cioè nel senso che si sarebbe anche potuto registrare una situazione di non contrasto immediato con la Costituzione, però favorire un processo di integrazione dell'ordinamento italiano rispetto a quello che in sostanza tutti i paesi europei hanno. Importante anche le ultime due sentenze in materia di carta della Corte Costituzionale che qui vorrei menzionare, sono l'articolo della sentenza numero 80 di quest'anno, che è una sentenza che rimette i puntini sulle i in materia di diretta applicabilità della Carta di Nizza in una materia, in un caso di diritto dell'Unione, e invece di indiretta applicabilità della CEDU come parametro interposto. Devo dire che quando si parla di applicabilità della Carta di Nizza, le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale italiana sono secondo me più restrittive rispetto a quelle della Corte di Giustizia, perché si fanno i due casi di applicabilità della Carta quando la legislazione interna è diretta espressione della normativa sovranazionale, quando lo Stato adduce delle ragioni per, diciamo, derogare all'operatività del diritto sovranazionale, che mi sembra molto limitativo rispetto alle cose fortissime che ha detto e ha mostrato la Corte di Giustizia, e rispetto anche alla comunicazione della Commissione e al primo report sull'applicazione della Carta che ci ha licenziato l'Agenzia dei Diritti Fondamentali. Importante è anche quest'ultima sentenza, relatore Grossi, che pure è, diciamo, è un autore che nel 2000 aveva espresso così delle perplessità su tutta l'operazione della Carta. Comunque è importante perché un problema è la sentenza Cofferati, se non ricordo male. Comunque si dice una cosa che è abbastanza importante, perché si mettono sullo stesso piano l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 1 della Carta dei diritti europei, come se formassero, in una questione che non c'entra nulla col diritto dell'Unione, come se formassero, per me correttamente, un unicum integrato, un cammino costituzionale comune. Passiamo a 82 del 2011, poi dello stesso giorno dell'80. Veniamo adesso in 5 minuti invece alla giurisprudenza, diciamo, dei giudici della Cassazione e dei giudici di merito. Vabbè, io qui l'ho già detto, è difficile fare un esame, diciamo, molto puntuale, diciamo caso per caso. Devo dire questo, che adesso parliamo di Corte di Cassazione. Del 1 dicembre del 2009 la Corte di Cassazione comincia a riferirsi al Trattato di Lisbona, alla forza della Carta, però in modo molto impreciso, cioè senza, diciamo, all'inizio quasi mai valutare l'articolo 51, se si trovasse sotto, appunto, l'ombra del diritto comunitario. A determinare il panico, diciamo così, anche perché in Cassazione se ne è molto discusso finché il primo presidente, se ne è molto discusso poi anche giustamente arrivando a una certa soluzione, è la sentenza 2503 del 2010, in un caso molto importante per tutti gli avvocati e in sostanza anche per tutti i magistrati, perché, come voi sapete, nel 2008 una raffica di sentenze della Cassazione decisero che il danno biologico andava, diciamo, complessivamente, diciamo, considerato, se sbaglio Giacinto correggimi, cioè sostennero che non si potevano moltiplicare le voci da danno biologico, danno esistenziale, danno alla dignità, danno fisico, danno eccetera. Non patrimoniale, sì, il danno biologico, eccetera. Quindi si doveva arrivare a una voce di risarcimento unitaria, salvo casi eccezionali. Bene, questa sentenza praticamente si trattava di una dequalificazione integrale di un lavoratore che era stato privato di ogni mansione e di ogni funzione da un suo dirigente, ma la causa non era di lavoro perché era, diciamo, questa lavoratrice se l'era presa col suo capo, diciamo, il contesto di lavoro era stato ritenuto irrilevante. Il giudice di Cassazione, ricordo di averla mandata a Lucia la sera e che lei mi rispose che erano apprezzabili, diciamo, le finalità ma non tanto gli argomenti, che cosa fa? Chiaramente questo è un caso in cui il diritto all'unione non c'entra assolutamente nulla. La Cassazione dice invece che col Trattato di Lisbona la Carta di Nizza è diventata obbligatoria e che quindi nel liquidare le voci di danno non sono stati considerati l'articolo 1 sulla dignità e l'articolo 15 sulla dignità professionale, e questo scandalo degli scandali annulla, mettendo nella formula del principio di diritto che il giudice a quo avrebbe dovuto poi recepire, la valutazione di questi articoli della Carta, che chiaramente venivano applicati non in via interpretativa ma come vere e proprie norme. Questo, diciamo, che in Cassazione ha generato, diciamo, un putiferio, anche se a guardare bene, certamente totalmente sballata l'argomentazione seguita dalla Cassazione, però a guardare bene la soluzione poteva essere raggiunta attraverso una interpretazione, attraverso la carta che veniva, diciamo, assunta come principio attestante, diciamo, alle tradizioni costituzionali dei comuni, quindi portare a un'interpretazione della norma civilistica che poi è quella che è stata applicata in modo più coerente dalla carta. Comunque questo, diciamo, è stato il caso, diciamo, che ha determinato più scandalo. Da quel momento in poi invece i giudici sono stati più precisi, nel senso che si sono posti il problema dell'articolo 51 o fuori dell'articolo 51 e in molti casi, per esempio nelle sentenze che casualmente ho redatto io, si è detto che si poteva partire, come aveva detto la Cassazione in quel precedente, dal principio per cui in linea astratta la soluzione trovata dal giudice interno deve essere compatibile col diritto sovranazionale, anche per evitare discriminazioni alla rovescia che diventerebbero devastanti. Cioè si deve partire dall'idea che la soluzione che applica il giudice italiano lo porti, in coerenza con la Costituzione, a non travolgere i principi costituzionali comuni e che quindi la carta valga, diciamo, anche come fattore interpretativo al di fuori dell'articolo 51, soluzione che nella relazione annuale sull'inaugurazione dell'anno giudiziario del primo presidente Lupo è stata accolta, perché si è detto espressamente che fuori dell'ambito di applicazione, diciamo, diretta, con un'interpretazione fra l'altro molto positiva dell'articolo 51, la carta opera, può operare a livello interpretativo. I vettori in cui, e poi mi avvio a concludere, diciamo, la carta sta mostrando sia nella giurisprudenza della Cassazione sia nella giurisprudenza dei giudici ordinari una grossa efficacia e genera un ricorso notevole di richiami, sono innanzitutto in materia di non discriminazione, perché qui abbiamo una raffica di sentenze emesse dai giudici del Nord Italia sulla discriminazione nei confronti di extracomunitari, ma anche di comunitari, ma anche di cittadini italiani, da prestazioni sociali che vengono erogate solo sulla base di un certo, certo numero di anni di residenza pregressa. Tutte queste sentenze sono, fra l'altro, la Commissione europea anche nei confronti della Regione del Friuli minacciato una procedura di infrazione, diciamo, all'Italia. Le trovate nel sito, sono state, diciamo, sistematicamente annullate. In alcuni casi, per esempio, un tribunale di Udine e un tribunale di Bolzano, con una sorta di applicazione diretta del beneficio sulla base della carta. Cioè c'è un tribunale di Bolzano che dice i cittadini extracomunitari sono stati in astratto ammessi a partecipare alla gara per avere dei fondi casa, diciamo, però i requisiti che erano richiesti erano discriminatori perché non sarebbero mai arrivati a conseguirlo. Quindi, siccome l'articolo 34 terzo comma è un diritto fondamentale di matrice europea in materia di non discriminazione, in sostanza il provvedimento amministrativo che li aveva esclusi è stato annullato. Quindi una sorta, fra l'altro l'articolo 34 terzo comma, vorrei ricordare, è uno dei pochi articoli in materia sociale in cui si allude alla possibilità che sia un principio e non un diritto, ma comunque il Tribunale di Bolzano li ha riconosciuti e anche in altri casi ha agito così. Per esempio nel famosissima causa sul comune di Adro la carta fa la sua bella figura, però non tutti sono casi di applicazione. In molti casi, diciamo, il giudice in materia non discriminatoria si è servito di un panel di strumenti interpretativi, tra cui le convenzioni internazionali, alcune volte a sproposito la CEDU e molte volte invece la carta di Nizza. Il secondo vettore di utilizzazione della carta è quello un po' tradizionale in cui la carta si era affermata pure prima, cioè in materia di consenso informato, amministrazione di sostegno. Qui nel sito ne abbiamo parecchie in cui i giudici ordinari, appunto, ricorrono al principio costituzionale e interno del consenso informato e ripercorrono un po' il solco della sentenza Englaro. Direi che non è un caso di applicazione anche questo, ma un caso di interpretazione forte. Terzo terzo, diciamo, settore è effettivamente stato quello dell'immigrazione, in cui appunto il caso più famoso, l'ho già accennato, si erano determinate due correnti contrapposte nell'ambito della Cassazione sul diritto, diciamo, al permesso di soggiorno di un genitore di figli in età scolari nati in Italia, e una prima corrente, peraltro con la validazione delle sezioni unite, riteneva un'interpretazione molto restrittiva e letterale della norma, una seconda interpretazione, presidente Salmè riteneva invece, anche prima del Trattato di Lisbona, che la Carta di Nizza e la CEDU offrissero, e anche la Convenzione di New York, argomenti per arrivare a un'interpretazione all'epoca, insomma, un'interpretazione che non è mai stata definita interpretazione conforme, insomma, un'interpretazione della norma in senso evolutivo. Alla fine è intervenuta la Cassazione a sezioni riunite, che apparentemente media tra le due cose, in realtà riconosce la bontà, sempre sulla base della carta, dell'interpretazione più favorevole ai cittadini immigrati, in quanto si dice che comunque va sempre vagliato l'interesse del figlio minore alla permanenza del padre in un'età così delicata del suo sviluppo. Concludo facendo due esempi invece di resistenza, perché insomma una certa resistenza dobbiamo sempre considerarla, cioè il giudice italiano continua a essere un po' troppo legato diciamo, all'immaginario di una gerarchia in cui sopra di sé c'è la Corte Costituzionale, che quindi la Corte di Giustizia o la disapplicazione sono, diciamo, scenari molto singolari e straordinari che, se possibile, è meglio non mettere in scena, anche se a onor per il prestigio della magistratura italiana dobbiamo riconoscere che sono proprio i giudici italiani che emettono il massimo numero di ordini di rinvii pregiudiziali, anche se ottengono anche il massimo numero di inammissibilità perché sono fatte male, mentre i giudici inglesi ne fanno di meno, però arrivano, diciamo, con maggiore certezza alla meta. Ecco, io di esempi diciamo, di questa regola vorrei farne due e poi concludo lasciando la parola a Valentina. Il primo sono questioni di grande rilevanza sociale di cui hanno parlato tutti. In primo luogo il problema dell'articolo 32 del collegato lavoro, spiego subito che cos'è, interessa milioni di persone. Vale a dire, l'articolo 32 del collegato lavoro prevede, in caso di conversione di un rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, una limitazione al diritto al risarcimento. Allora, la Corte di Cassazione con un'ordinanza non si è, diciamo, ha rimesso questa questione, lasciamo perdere poi lo stile, alla Corte Costituzionale e non ha fatto il rinvio pregiudiziale. Perché? Però è la motivazione che è interessante, perché in un punto rileva il contrasto addirittura tra la normativa italiana e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia in, mi pare, 17 sentenze sui contratti a termine ha detto che le sanzioni in caso di contratti elusivi dei limiti comunitari deve essere effettiva, deterrente, eccetera eccetera. Quindi questo l'ha detto la Corte di Cassazione, però l'ha detto che, come elemento che rilevava i fini del contrasto con il diritto al lavoro di cui l'articolo 4 della Costituzione. Quindi non ha fatto, poteva a quel punto, anzi doveva, o disapplicare o rimettere o fare il rinvio pregiudiziale. Ma poi ha fatto anche un altro errore, che secondo me questo è molto diffuso, cioè quando la questione è di diritto dell'Unione, è vero che è pertinente la giurisprudenza CEDU, però è pertinente la giurisprudenza CEDU perché è trainata dalla Carta. Quindi una volta, come ha fatto la Cassazione, in cui si è detto che questa norma era contraria al noto principio di divieto di retroattività della legge civile perché interveniva nei processi, non doveva rimettere alla Corte Costituzionale per contrasto con la CEDU, ma doveva, diciamo, era una questione, diciamo, propriamente di carta, non so come la vedete voi. Quindi si tratta di due, diciamo, di due soluzioni, di due passaggi molto molto controversi. Il secondo punto che mi ha colpito è stato nella famosa questione del contrasto tra la legislazione interna in materia di immigrazione in senso lato e la direttiva Retour, che si è determinata il primo gennaio del 2011. I giudici italiani si sono divisi in quattro partiti. Una parte ha detto che non gli interessava questa questione perché c'era una norma italiana, eccetera. Una seconda parte ha disapplicato, perché ha riscontrato l'immediata applicabilità della direttiva e quindi ha ritenuto che la norma fosse in contrasto e quindi ha disapplicato. Una terza parte ha rinviato alla Corte di Giustizia e sappiamo com'è finita. Una quarta parte ha ritenuto la direttiva non immediatamente applicabile e quindi ha rinviato alla Corte Costituzionale. Ora io dico, è piuttosto strano che in una questione squisitamente di diritto comunitario, in una direttiva che dice di rispettare la carta, perché è la direttiva Retour, magari non è vero, sappiamo che non è vero, però lo dice la direttiva Retour, nessuno si sia posto il problema dell'applicabilità dei diritti della carta. Fra l'altro nella Eldidri il parere, cioè le conclusioni dell'avvocato generale richiamano la carta, perché si tratta di limitazione della libertà di un immigrato, diciamo, condotto in modo irragionevole e in contrasto con la direttiva comunitaria. Quindi, insomma, c'è molto da fare, certamente i giudici italiani sono molto avanti, c'è molto materiale, però secondo me una certa timidezza a fronte del passo abbastanza deciso della Corte di Giustizia effettivamente non si può negare. Grazie a Papi Bronzini. Vedete per quali vie tortuose diversi paesi europei cercano di confrontarsi con questo complesso sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali in Europa. E adesso un'ulteriore complicazione. Torniamo all'inizio, il rapporto fra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, meglio, fra la Carta dei diritti e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Prego. Grazie. Sì, prima di considerare quelli che sono i frutti del negoziato di adesione dell'Unione Europea alla CEDU, che sono state richiamate da Lucia, vorrei richiamare quelli che sono i passaggi essenziali di quello che mi piace chiamare come un processo di avvicinamento tra due sistemi, fatto di continui sguardi reciproci e che si è scelto di far culminare nella adesione. Sì, perché in realtà la questione dell'adesione non è una novità del Trattato di Lisbona, risale a ben 40 anni fa e già alla fine degli anni 70 due istituzioni molto sensibili in materia di diritti fondamentali come il Parlamento Europeo, ma anche la Commissione, avevano stimolato una riflessione su come rafforzare la protezione dei diritti fondamentali all'interno delle comunità europee, e uno dei modi era appunto stato quello di prevedere l'adesione della comunità alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. L'altro era quello di dotare la comunità europea di un catalogo dei diritti. E bisogna però aspettare il parere della Corte di Giustizia richiamato da Lucia prima, 294 del 96, per avere un primo stop proveniente appunto dalla Corte di Giustizia, la quale ritenne che allo stato attuale del diritto comunitario non c'erano i presupposti per l'adesione, dato che mancava la competenza delle istituzioni e nessuna disposizione del trattato attribuiva alle istituzioni comunitarie il compito di regolare i diritti fondamentali, e quindi se si fosse voluto aderire alla convenzione era necessario modificare i trattati, quindi trattandosi di questioni di diritto costituzionale del sistema comunitario. Questo parere però è stato utile perché ha rilanciato il dibattito sull'adesione, e da queste riflessioni è poi scaturita la riforma di Amsterdam, che come è noto ha formalizzato nell'articolo 6 la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali, ma non ha portato, diciamo, a alcun cambiamento né in ordine all'adesione della comunità, insomma poi dell'Unione appunto, alla CEDU, né in relazione al catalogo che era l'alternativa sui diritti fondamentali. Quindi la tappa, diciamo, successiva è stata l'adozione della Carta dei diritti, la Carta di Nizza, e l'adozione della Carta però non ha portato a chiudere quello che era il dibattito relativo all'adesione, anche se c'è chi aveva sostenuto che una volta adottata una Carta non fosse in realtà più del tutto necessario provvedere ad una adesione dell'Unione alla CEDU, dal momento che i due sistemi, quello del Consiglio d'Europa e quello dell'Unione Europea, erano entrambi dotati di una Carta dei diritti, la Carta appunto di Nizza e l'altra Convenzione, e dal momento che c'erano due corti deputate a garantirne il rispetto e il controllo. Quale quindi è la motivazione o le motivazioni che sono alla base invece dell'idea di proseguire nel percorso dell'adesione? Mi sembra che una risposta efficace a questo interrogativo sia stata data da una recente dichiarazione comune, prima richiamata da Lucia, dello scorso gennaio, dei due presidenti delle corti, quella di Strasburgo e quella di Lussemburgo, i quali hanno appunto sintetizzato l'idea di proseguire nel processo di adesione dicendo che l'adesione costituisce una tappa ulteriore nell'evoluzione della protezione dei diritti in Europa. Dal momento poi che la Carta è diventata un testo di riferimento sia per la Corte di Giustizia sia, appunto, come è stato detto, dei giudici nazionali quando attuano il diritto dell'Unione Europea, la necessità è quella di garantire una maggiore coerenza tra queste due fonti e soprattutto una coerenza nella giurisprudenza delle due corti. Ma la finalità è anche quella di permettere un controllo esterno del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea, dopo il controllo interno svolto dalla Corte di Giustizia. Quindi tutte queste rappresentano le motivazioni che sono alla base di questo processo di adesione. Processo di adesione che non costituisce una mera possibilità, ma un obbligo giuridico. Il trattato lo stabilisce nell'articolo 6, appunto, dove prevede l'Unione aderisce alla Convenzione. Ma l'elemento necessario perché questa adesione possa realizzarsi non è solo la previsione di una base giuridica come l'articolo 6, ma anche la necessità di emendamenti, cambiamenti, modifiche di quello che è il sistema CEDU e più in particolare di quelle che è i rapporti tra le due corti e la partecipazione di un giudice che sia portavoce della tradizione giuridica dell'Unione Europea all'interno della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'adesione quindi è soggetta ed è assoggettata a condizioni particolari, perché particolare è il soggetto che ne viene a fare parte, nel senso che rispetto alle altre parti contraenti appunto della Convenzione, l'Unione adotta atti che esplicano i loro effetti direttamente nei confronti dei singoli oppure attraverso atti nazionali di recepimento. Quindi la posizione dell'Unione è comunque diversa rispetto a quella di uno Stato che è parte contraente della Convenzione. E l'articolo 6 dello stesso trattato sull'Unione Europea sottolinea questo aspetto, che può essere sintetizzato nella preoccupazione di evitare che l'adesione possa portare ad una modifica nella ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Preoccupazione che viene manifestata non solo nella formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea, ma anche nel protocollo numero 8 allegato al Trattato. dove si ribadisce appunto la questione relativa alla ripartizione delle competenze. Però su questo aspetto ritorno più tardi, quando mi occuperò più nello specifico del meccanismo elaborato nel corso dei negoziati. Per concludere questa carrellata, diciamo, di processo di avvicinamento dei due sistemi, volevo richiamare quelli che era la funzione di controllo indiretto che la Corte di Strasburgo ha in un certo senso di fatto svolto nei confronti dell'Unione Europea attraverso l'escamotage degli stati che sono sia parti aderenti alla Convenzione che membri dell'Unione Europea. I casi che si prospettavano, le ipotesi, erano appunto quelle del caso Matthews, quindi se si trattava di una norma di diritto primario, la Corte di Giustizia ha ritenuto lo Stato membro responsabile perché le autorità nazionali avevano autonomamente aderito ad un accordo internazionale, quale è il diritto dell'Unione Europea, i trattati UE e CE, in base alle proprie procedure costituzionali, e quindi aveva ritenuto che lo Stato membro fosse responsabile per non aver rispettato appunto quanto previsto in materia di diritto all'elettorato al Parlamento dalle norme della Convenzione. Se si trattava invece di una norma di diritto derivato, che non concedeva allo Stato membro alcun margine di discrezionalità, allora la Corte ha elaborato quella che è stata considerata come la dottrina della presunzione di equivalenza nella protezione dei diritti tra i due sistemi. Infine, se l'atto comunitario non richiedeva alcun atto di recepimento a livello interno, ma esplicava i suoi effetti solo ed esclusivamente nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, la Corte di Strasburgo si è sempre riconosciuta incompetente a giudicare, a sindacare quindi sull'atto in questione. Per concludere, quindi, su questo aspetto, prima dell'adesione la Corte di Strasburgo ha di fatto svolto un controllo indiretto su quello che è il rispetto da parte del diritto dell'Unione Europea dei diritti fondamentali contenuti nella CEDU, e di fatto in questo modo ha contribuito a spingere verso l'adesione dell'Unione alla CEDU. L'obiettivo perseguito attraverso questa adesione è quello di rafforzare la tutela degli individui, tenendo in considerazione quelle che sono le specificità del diritto dell'Unione Europea. Che cosa significa? Significa che, lo dice lo stesso protocollo numero 8, che non devono essere messi in discussione la ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione Europea e le attribuzioni delle istituzioni, quindi le competenze, le attribuzioni delle istituzioni europee, e chiaramente da leggere nel senso che non deve essere messo in discussione il ruolo della Corte di Giustizia, che è l'unica deputata a giudicare la invalidità di un atto adottato dalle istituzioni dell'Unione Europea. Poi, altro aspetto, non deve essere messa in discussione la situazione degli Stati membri dell'Unione Europea che sono nei confronti della CEDU e dei suoi protocolli. Quindi anche l'adesione non deve creare situazioni di difficoltà nei confronti delle altre parti contraenti che siano anche membri dell'Unione Europea. Terzo aspetto, nessuna disposizione dell'accordo di adesione deve mettere in discussione l'articolo 344 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, cioè che le controversie tra Stati membri non possono essere risolte se non attraverso gli strumenti previsti dal Trattato dell'Unione Europea. Quarto, che devono essere individuate modalità specifiche per l'eventuale partecipazione dell'Unione Europea agli organi di controllo della CEDU, e mi riferisco al Comitato dei Ministri, che è deputato a garantire il controllo sulla corretta esecuzione delle sentenze. E quinto, ma non solo, ci sono, come vedremo, altre funzioni che esso svolge. Quinto, che deve essere previsto un meccanismo che garantisca che i procedimenti avviati da Stati non membri dell'Unione Europea e da singoli siano correttamente indirizzati nei confronti dell'Unione oppure nei confronti e o nei confronti di Stati membri dell'Unione stessa. Tutte queste preoccupazioni sono state oggetto del negoziato di adesione che è iniziato nel luglio dell'anno scorso e che presumibilmente si dovrà concludere nel giugno di quest'anno, quindi un anno per riuscire a raggiungere una posizione comune e che ha visto coinvolto da un lato la Commissione europea, dall'altro un gruppo di lavoro informale del Comitato sui diritti umani composto da metà membri del rappresentanti degli stati membri dell'Unione, metà di altri stati membri parti contraenti ma non dell'Unione Europea. E dall'ultima bozza che è uscita da questi negoziati sono emerse una serie di proposte. Ricordo chiaramente che l'accordo, come è già stato detto, è un accordo misto per cui dovrà essere dovrà essere adottato all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Europea, previa approvazione del Parlamento Europeo e previa ratifica da parte degli Stati membri secondo le loro, approvazione da parte degli Stati membri secondo le loro procedure costituzionali interne. E poi dovrà essere ratificato chiaramente anche dalle altre parti contraenti che non sono membri, Stati membri dell'Unione Europea. Altra precisazione, si dice sempre che il Trattato sull'Unione Europea prevede l'adesione dell'Unione alla Convenzione, ma nulla si dice dei suoi protocolli. Invece in quello che è il testo, non chiaramente definitivo, frutto dei negoziati, si prevede anche l'adesione ai protocolli dall'1 al 6 allegati alla Convenzione. Cosa invece fare per gli altri protocolli, protocolli addizionali? L'Unione, si dice, potrà aderire eventualmente anche a questi protocolli, anche nel caso in cui questi non siano stati ratificati da tutti gli Stati membri. Questa è un'ipotesi, non è detto che sia quella percorribile, perché l'alternativa è quella che aderisca solo ai protocolli addizionali ratificati da tutti gli Stati membri. Quest'ultima ipotesi, cioè solo quelli ratificati da tutti gli Stati membri, fugherebbe i timori di quegli Stati che, non avendo ratificato i protocolli, si vedono applicati questi protocolli attraverso il diritto dell'Unione Europea. E quindi c'è chi propende verso questa posizione, ma anche l'altra posizione potrebbe essere percorribile, cioè quella di aderire a protocolli non ratificati da tutti gli Stati membri. Percorribile perché? Perché per esempio la mancata adesione ad un protocollo potrebbe esporre l'Unione Europea a manifestare il rifiuto ad un controllo esterno svolto dalla Corte di Strasburgo su questioni, su diritti che la Carta dei diritti già prevede ma per i quali non vuole quindi un controllo esterno da parte della Corte di Strasburgo. Quindi su questo aspetto ancora non si è giunti ad una soluzione di compromesso. C'è da dire che poi anche la Corte di Giustizia nella propria giurisprudenza ha richiamato protocolli a sostegno, per esempio non so, quello sul Nebis in Idem, a sostegno delle proprie posizioni, pur non essendo stato ratificato da tutti gli Stati membri. Mi riferisco per esempio alla sentenza Godzutok-Brugge, oppure anche la sentenza Van Esbroek, tutte relative appunto al protocollo su Nebis in Idem. In che modo quindi le specificità dell'Unione Europea, e quindi mi riferisco al riparto di competenze tra Stati membri e Unione Europea, verrà rispettato. Come è già stato ricordato da Lucia, il parere 1.91 relativo allo spazio nella zona economica spazio economico europeo, la Corte di Giustizia aveva detto che non ammetteva che una Corte potesse giudicare della ripartizione delle competenze, perché si tratta di un aspetto costituzionale. Quindi che fare? La soluzione che i negoziatori hanno cercato di raggiungere è quella di un meccanismo di co-respondent, di litis consortio, nel senso che ci sarebbe una sorta di solidarietà tra l'Unione Europea e gli Stati membri, e le ipotesi sono tre fondamentalmente. se il ricorso è diretto contro uno o più stati membri dell'Unione Europea, l'Unione Europea potrà intervenire se risulta che l'atto o l'omissione da cui si ritiene derivi la violazione della Convenzione potevano essere evitati solo disattendendo un obbligo derivante dal diritto dell'Unione Europea. La seconda ipotesi è quella del se il ricorso viene diretto contro l'Unione Europea. In questo caso gli Stati membri, uno o più Stati membri, potranno intervenire come litisconsorti nel procedimento se risulta che l'atto o l'omissione potevano essere evitati solo disattendendo un obbligo derivante dal diritto dell'Unione Europea che non poteva essere modificato unicamente dalle istituzioni, cioè si riferisce al diritto primario, insomma, dei trattati, che richiede la convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi oppure di una convenzione. Queste sono le previsioni contenute nei trattati. Terza ipotesi, se il ricorso viene indirizzato verso l'Unione Europea e uno o più Stati membri. In questo caso, se ricorrono le condizioni precedenti, l'una o l'altra, l'Unione Europea o lo Stato membro potrà essere declassificato da respondent a co-respondent. Questo perché, tutto questo meccanismo perché? Perché spesso accade che non sempre il singolo sia in grado, quando vi è un atto di recepimento di un atto nato nazionale di recepimento, di applicazione o di attuazione di una norma di diritto dell'Unione Europea, sia in grado di stabilire se la responsabilità sia da imputare all'atto nazionale di recepimento piuttosto che a quello dell'Unione Europea. Quindi, per chiaramente supplire a questa difficoltà, si è resa possibile questo meccanismo. Non si è giunto però ad un accordo in relazione al fatto che questa valutazione di correspondent debba essere automatico o sia sottoposta ad una decisione della Corte di Strasburgo, perché la Corte di Strasburgo in realtà vorrebbe mettere lo zampino in questo, e quindi su questo aspetto in realtà i negoziati sono ancora aperti. Quanto all'altro spinoso problema del previo esaurimento dei ricorsi interni, questo, come è noto, è un requisito essenziale perché la Corte di Strasburgo non giudichi il ricorso irricevibile. È un principio, è un requisito che è strettamente legato a quello che Lucia citava prima, che è il principio di sussidiarietà, secondo il quale spetta agli Stati membri garantire che non avvenga una violazione a livello nazionale di un diritto garantito dalla CEDU, e spetta alla Corte di Strasburgo verificare che poi abbiano effettivamente rispettato il loro compito. Se si deve applicare questa procedura anche all'Unione Europea, questo però dovrà avvenire facendo i conti con quello che è il sistema, che ho detto prima, giurisdizionale, delle competenze della Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia lo ha detto nel parere, ma è già ben desumibile sia dal protocollo 8 che dall'articolo 6 che nulla deve cambiare nel sistema giurisdizionale, per cui solo la Corte di Giustizia sarà l'organo deputato a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione Europea. Quindi che cosa deve accadere? Che la Corte di Giustizia debba pronunciarsi prima che si pronunci la Corte di Strasburgo. Nessun problema vi è se l'atto dell'Unione Europea viene direttamente impugnato da parte del singolo, mi riferisco al ricorso di annullamento. I problemi invece si pongono in caso di rinvio pregiudiziale di validità, perché il procedimento pregiudiziale non può essere considerato un vero e proprio mezzo di ricorso, perché non è il singolo che lo esperisce, ma certo lo può stimolare davanti al giudice, però non è direttamente azionabile dal singolo. Quindi prenderlo in considerazione come un mezzo di ricorso che deve essere esperito per poter adire alla Corte di Giustizia non è del tutto, diciamo, corretto. Le soluzioni quindi quali erano? Le soluzioni paventate erano quelle di rafforzare il rinvio pregiudiziale, prevedendo che i giudici nazionali, tutte le volte che viene contestata la validità di un atto sulla base della CEDU, un contrasto tra un atto dell'Unione e la CEDU, siano tenuti a effettuare un rinvio pregiudiziale. E l'altra soluzione era quella di attribuire alla Commissione questo compito, di chiedere una pronuncia pregiudiziale davanti alla Corte di Strasburgo. In realtà la soluzione che sembra essere emersa da questi negoziati è un'altra ancora, cioè sembra essere emerso il fatto che il problema non è tanto quello di considerare la Corte di Giustizia come giudice di ultimo grado dell'Unione, quindi per il rispetto di quello che è il principio sopra ricordato del previo esaurimento, ma come organo che può essere adito prima di effettuare un controllo esterno, quindi un organo che può essere adito per effettuare un controllo interno. Il progetto di accordo prende in considerazione infatti il caso in cui l'Unione intervenga come correspondent e si dice in questo caso, se la Corte di Giustizia non ha ancora statuito sulla validità dell'atto, allora avrà la possibilità, questa è una terminologia infatti piuttosto generica, avrà la possibilità di farlo prima che la Corte si pronunci nel merito. Oppure l'alternativa è in corso di esame da parte della Corte di Strasburgo. Su questo punto la scelta dei negoziatori non è ancora definitiva. In ogni caso la Corte di Giustizia, e questo ci tengono a precisare i negoziatori nel testo, la pronuncia della Corte di Giustizia dovrà avvenire in termini brevi, perché la pronuncia di Lussemburgo non dovrà gravare sui tempi di giustizia davanti alla Corte di Strasburgo. Quindi, come per cercare di riassumere quanto detto, la Corte di Strasburgo non potrà annullare l'atto, potrà dichiararne la incompatibilità con la CEDU, l'Unione, visto che aderisce, dovrà, come gli altri parti contraenti, provvedere a dare esecuzione alle sentenze e quindi provvedere alla riparazione di quanto arrecato al singolo e provvedere anche ad eliminare le cause all'origine della violazione, quindi modificare nel caso l'atto adottato dall'istituzione. Si pone poi il problema del giudice designato all'interno della Corte, perché il dibattito che si era posto alle origini era quello se un giudice che potesse sedere solo nelle controversie che vedevano l'Unione Europea a parte, oppure tutte le controversie. Direi che forse la seconda ipotesi sarebbe quella più rispettosa di quello che è il principio di uguaglianza di tutte le parti contraenti dell'Unione Europea, anche se su questo punto, ripeto, anche i negoziati non danno una soluzione, ma si premurano di stabilire come debba avvenire questa nomina, cioè una delegazione del Parlamento Europeo parteciperà all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa quando, con diritto di voto, quando vengono nominati i giudici. L'altro aspetto da tenere in considerazione è quello della partecipazione dell'Unione Europea agli organi di controllo sulla CEDU, e mi riferisco al Comitato dei Ministri. Perché il Comitato dei Ministri, nelle sue funzioni circoscritte solo ed esclusivamente nell'ambito della CEDU, può supervisionare, anzi deve supervisionare all'esecuzione delle sentenze, può adottare decisioni riguardanti l'adozione o l'attuazione di emendamenti o protocolli addizionali, può chiedere alla Corte di Strasburgo che emani un parere consultivo sull'interpretazione della CEDU, ma anche il potere di ridurre il numero, per esempio, dei giudici nelle varie camere. Quindi ha degli importanti poteri e bisognerà definire come, su questo i negoziatori non sono ancora giunti ad una posizione, come questo dovrà avvenire. Certo non dovrà essere una partecipazione a tutte le funzioni che ha il Comitato dei Ministri, perché l'Unione chiaramente aderisce solo alla CEDU e non al Consiglio d'Europa. Altro aspetto delicato, perché tocca le finanze, è il fatto che comunque l'Unione Europea, aderendo, dovrà anche accollarsi quelle che sono una parte delle spese di funzionamento della Corte stessa, e quindi più in particolare, insomma, della Corte, ma della Convenzione in tutti i suoi aspetti. Le questioni che, per concludere, mi sembra che si possano opporre siano quelle relative alle conseguenze in termini di gerarchia delle fonti. Già Lucia aveva accennato al fatto che, io condivido, che con l'adesione la CEDU non avrà lo stesso livello, la stessa posizione dei trattati, ma sarà una norma al di sotto dei trattati, ma in un certo senso al di sopra degli atti di diritto derivato. Lo aveva appunto, tra l'altro, anche detto alla Corte di Giustizia in alcune sue pronunce, tra cui appunto Intertanko, Commissione contro Germania. Quanto invece alla diretta invocabilità della CEDU da parte dei giudici nazionali, ecco, questa è una questione ancora più delicata. Perché? Perché alcuni giudici nazionali, lo sapete, hanno già ritenuto che la sola previsione della adesione contenuta nell'articolo 6 fosse già sufficiente per prevedere una diretta applicabilità. Ma c'è anche chi ritiene che l'adesione non comporterebbe un'automatica comunitarizzazione della CEDU. Questo perché? Perché si potrebbero creare due situazioni distinte di valore da attribuire alla CEDU. Cioè la CEDU quando viene in rilievo il diritto dell'Unione Europea, oppure la CEDU quando non viene in rilievo il diritto dell'Unione Europea. Quindi in realtà io propenderei più per una non automatica comunitarizzazione della CEDU. Trattatizzazione. Sì, trattatizzazione, unionizzazione. In ogni caso l'adesione deve comunque fare i conti con quelle che sono le difficoltà di lungaggine, dei procedimenti anche davanti alla Corte di Strasburgo, che si sono tentati di risolvere attraverso il protocollo 14, ma che, essendo piuttosto recente la sua entrata in vigore, si vedrà se poi saranno o meno sufficienti. Per concludere, le conseguenze dell'adesione, sicuramente la volontà è quella di garantire ai singoli e alle vittime, di coloro che si ritengono vittime di una violazione di un diritto previsto dalla CEDU, la possibilità di poter adire la Corte di Strasburgo contro l'Unione Europea e quindi contro un atto adottato dalle sue istituzioni. Sicuramente rafforzare e riaffermare il ruolo di primo piano della CEDU, però questo, lo ripeto, non sento sminuire chiaramente il ruolo della Carta e l'importanza della Carta di Nizza. Rafforzare certo la credibilità sia interna che esterna dell'Unione Europea, perché accettare un controllo da parte di una Corte di un altro sistema vuol dire comunque, insomma, una maggiore disponibilità e trasparenza. E quindi, per ultimo, e forse quella era la volontà primaria, quella di continuare a assicurare una armonizzazione nella giurisprudenza delle due corti. Grazie. Grazie mille Valentina, anche questo, come vedete, è un percorso un po' complicato e accidentato, però insomma teniamo conto che il Trattato di Lisbona è in vigore da meno di un anno e mezzo, quindi coraggio, insomma, i problemi sono tanti, ma credo che sono stati affrontati anche abbastanza velocemente dati i tradizionali tempi europei, e quindi probabilmente abbiamo davanti delle strade che ci porteranno a una qualche maggiore certezza di percorsi di tutela giuridica. Bronzini aveva accennato alla possibilità di dibattito, ma credo che siamo anche piuttosto provati dalla complessità delle questioni che ci sono state sottoposte, e forse lo dovremo rimandare ad un'altra volta. Ringrazio moltissimo i professori venuti da Bologna e da Londra addirittura per per concludere questo lavoro fatto insieme con almeno molta nostra soddisfazione. Buonasera a tutti.